Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime Radio, come al solito 21:30, poco dopo, appena giusto per, ma puntuali come sempre qui su www.runtimeradio.it, ben tornati al nuovo episodio di Quando eravamo futuro. Insieme a me c'è Davide Gatti. Eccomi qua, stavolta oggi sono partito presente. Ci siamo, sì, oggi dicevo ci sono, la scorsa settimana ero assente, ma oggi abbiamo perso un altro pezzo per strada. Esatto, come avevamo previsto qua. Purtroppo durante le feste, spostamenti, incontri, cene, amici, chi più ne ha più ne metta, eccoci qua, insomma questa è un po' la situazione. Ricordiamo Davide Gatti con il suo meraviglioso canale YouTube Survival Hacking, che tra poco riceverà il pulsante d'argento. Sì, buonanotte. Stiamo calmi. Comunque, Survival Hacking, cercatelo su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a tutti i video, condivideteli, così aiutate comunque gli appassionati come Davide, insomma, a crescere. Chiaramente, qual è l'ultimo video che stai pubblicando ultimamente? Ultimamente sta andando in onda un'iniziativa che devo ringraziare Carlo direttamente qua in live, perché è partito il calendario dell'avvento elettronico. Sono una serie di 24 piccoli video che ci stanno accompagnando dal 1 di dicembre fino al 24 dicembre, con una sorta di kit che è nato proprio come calendario, dove ci sono le caselline. Ogni giorno apriamo una casellina, scopriamo un nuovo componente elettronico e poi, seguendo le istruzioni, realizziamo quello che ci viene proposto dal manuale incluso chiamiamolo, in questo gioco. E quindi questo piccolo sforzo di questi 24 video, che è stata una bella impresa farli in tempi record e fare tutto il lavoro. Comunque, iniziativa così, curiosa. Immagino. E con noi c'è anche Carlo Sant'Agostino, ovviamente. Eccomi qua, ciao a tutti. Sì, io ogni tanto vedo delle robe su internet da fare elettronica, anziché farle io, le mando a Davide e gli dico: ti piace? Lui: sì, lo faccio. Funziona così. E poi mi dà un sacco di lavoro, mi dà. Va bene, dai. Ma comunque si dice Runtime Radio o Runtime Radio? Si dice Runtime Radio da noi. Esatto, cioè noi, poi qualcuno dice Runtime Radio, però poi la signorina che abbiamo assunto per dire le cose, lei dice Runtime Radio, proprio così. Tra parenti, la signorina è lì che scalpita e potrebbe fare nuove cose, lo sai, sì, vero? Io lo so, e sicuramente Patreon lo farei diventare Patreon, eh? Se ci riusciamo. Ma sì, fai un po' di accenti, metti un po' di virgole a caso. Sì, no, in realtà ci sono alcuni spot che vanno rifatti, perché sono cambiate alcune cose nel palinsesto, sono cambiati alcuni orari, ci sono stati un po' di invertimenti. Sì, no, adesso scusa, io ho schiavito la signorina. Carlo c'ha a casa la donnina disponibile, scusa, procediamo, no? Ho capito. Comunque, canale a YouTube di archeologia informatica, Carlo, che cosa succede ultimamente? Ultimamente succede che finalmente iniziamo a pubblicare qualche video, perché al contrario del bellissimo canale di Davide, noi di archeologia informatica siamo molto più tranquilli, nel senso che lui pubblica. Ma noi andiamo a periodi, sono folate del periodo in cui pubblichiamo ogni settimana e mesi che ci clissiamo. Dicevo che lui pubblica 12 video al giorno e noi 12 video all'anno, quindi più o meno questa è la differenza media tra i due canali. Ma c'è una differenza. differenza di contenuti. I nostri la colpa è di Carlo Sant'Agostino, però ricordiamolo sempre. Esatto, è importante. No, comunque però sono contenuti molto più complessi, molto più elaborati. Cioè mi ringrazio grandissimo. Le scuse, no. Allora, adesso abbiamo appena pubblicato il reportage di Brusaporto, ma stiamo in trepidante attesa per quello che ci sarà a gennaio, cioè il mini documentario che abbiamo fatto con la regia di Simone Pizzi, ovviamente. Ma che sicuramente sarà da rifare, perché devo esserci anch'io. Ah, okay, va bene, va bene. Faremo un remake dopo qualche tempo, faremo il remake, la remastered edition. No, vediamo la roba elettromeccanica, per esempio il flipper. Bene, sì, sarebbe interessante. No, comunque bisogna ritornarci, io ci devo ritornare, sì, urgentemente, sì, perché c'è sì, ma non abbiamo detto cos'è il museo del videogioco. Ma non del videogioco, basta con questa cosa. È il museo dell'intrattenimento elettronico che è importante, perché di chiaramente di Avezzano. Insomma, ne vedremo delle belle. Va bene, dai ragazzi, che abbiamo già, ci siamo veramente molto dilungati in questa intro, quindi andate sui canali relativi di Archeologia Informatica, iscrivetevi e attivate la campanella, stessa cosa su Survival Hacking, e guardatevi i contenuti che sono sicuramente al di sopra della media, insomma, degli standard di YouTube Italia, che insomma sapete che questo è quello che ci passa al convento. Io vi faccio sentire molto brevemente un pezzettino di brano, prego. Salutiamo Roberto Tomaiolo. Ah, vabbè, salutiamo Roberto, l'abbiamo salutato prima. No, non l'abbiamo salutato. Bene, abbiamo manca qualcuno, ma non l'abbiamo menzionato. Vabbè, sì, è vero, hai ragione. Roberto Tomaiolo, che in questo momento è in fase di transito nel buffer del teletrasporto. È in trans. Esatto, in trans. Sì. Va bene, vi faccio sentire questa piccola cosa molto brevemente per introdurre un po' il tema della puntata. Fabbriche bruciate, passa il treno delle sette, con le facce disegnate dal cammino del dolore. Il dolore è importante, il dolore, perché questa canzone mi ricorda molto un periodo in cui viaggiavo molto in treno, e mi capitava di, tra le varie cassette che avevo nel mio Walkman della Sony, chiaramente avevo queste cassette di Antonello Venditti e di Francesco De Gregori, perché era un periodo, insomma, che ascoltavo queste cose, così come ho detto questa mattina nella mia meravigliosa trasmissione Buongiorno un cazzo, sempre qui su Runtime Radio. Insomma, scusate ragazzi, faccio una trasmissione che si chiama così, un po' volgare, ma ha un suo motivo. E niente, e praticamente queste erano, è una canzone che mi ricorda molto quel periodo lì, quindi in realtà è attinente fino a un certo punto, a parte che dice il treno delle sette, no? Al quale voi ovviamente abbiamo usato per dare il titolo della puntata. Però fondamentalmente, cioè, poi parla di altro, perché insomma è una canzone politica come tante canzoni dell'epoca, perché gli anni 70 e 80 sono stati, anche insieme agli anni 60, chiaramente, periodi di un grande fermento, di grande consapevolezza, no? Anche dal punto di vista della partecipazione sociale, no? Però non è di questo che parleremo in questa puntata, così come abbiamo cercato di dire anche nell'introduzione. Oggi parleremo non parliamo di vacanza, perché l'abbiamo già fatto, chiaramente, cioè perlomeno non ne parliamo necessariamente, poi chiaramente ci saranno anche dei riferimenti. Questo è un episodio proprio sul viaggio, ma proprio nel senso più letterale del termine, come posso dire, nello spostarsi, ecco, quando ovviamente alla fine il tempo aveva un valore diverso rispetto a quello che diamo oggi, e lo scambiamo volentieri anche magari con gli incontri, con i rapporti umani, con con un modo diverso di appunto approcciarsi con questo che era questo ritmo molto più compassato, ma anche nello spostamento stesso, no? E come abbiamo detto, non è una questione di meglio o peggio, l'abbiamo detto mille volte, no? È solo una questione di diverso, cioè questa era una società sicuramente diversa e spostarsi non era così pratico ed immediato, o perlomeno non era così economico, come vedremo magari in certe situazioni, di quanto poi ovviamente è stato successivamente nel futuro, insomma in questo futuro, quando diventeremo futuro, insomma questo è un po' il discorso. Ecco, avete qualcosa da dire in merito a questa introduzione prima di entrare poi ovviamente nei temi specifici, Carlo? Che avrei messo la canzone di sì, viaggiare, no, scherzo. No, in realtà ce n'erano milioni di canzoni da mettere, io esatto. Ho messo una cosa, come ho detto, che è collegata a una mia esperienza, non voleva essere una cosa così direttamente no, collegata. E la mia era una battuta scema, non ti preoccupare, okay. Come le mie solite battute idiote che faccio sempre, che poi rido solo io. Ho capito, salutiamo intanto Michela che ci ascolta in chat, cioè, salutiamo anche Davide Gatti che ci ascolta in chat, ma è Davide Gatti, io ho la... Cadrega pronta ed aspetto il treno. Bravo. Abbiamo anche Andrea Trevisan. Ciao Andrea, piccolo Alessandro di 8 anni. Ah, beh, vabbè, carini. Che dicevi, Davide? Scusa. No, dicevo che io ho letto quello che hai scritto e conosco anche parte del tuo trascorso viaggifero. E rispetto alla tua esperienza, sicuramente io questa esperienza l'ho traslata molto più in là negli anni rispetto a te, quindi ho vissuto in un periodo diverso quello che tu hai vissuto in quegli anni, negli anni in cui veramente viaggiare era veramente fare un viaggio, una cosa molto elaborata e complessa a volte, costosa, difficoltosa, quello che hai detto prima, no? Ecco, invece l'ho vissuto quasi 10 anni dopo. Io in quegli anni mi sono spostato molto poco, facendo quei bei viaggi, quelli che ti lasciano qualcosa dentro, quindi sono più negli anni 90 quasi, però anch'io, anche se non è l'annata giusta, la situazione è molto simile in molti aspetti, ecco, rispetto a quello che hai fatto come introduzione, ecco. Sì, anche se poi dopo vediamo anche in questo episodio ci rendiamo conto che in realtà erano anche le piccole cose che erano non difficoltose come probabilmente i lunghi viaggi, però erano comunque peculiari. In realtà c'era lo vediamo con lo sguardo un po' romantico e diciamo c'era del romanticismo in tutto questo, allora c'erano anche due coglioni a volte, no? Nel senso che comunque poi ho sbagliato a dire il termine difficoltoso, in realtà all'epoca era così, non era difficile, era fatto così sì. Oggi se ci pensi sembrava una cosa difficile perché non c'erano i mezzi, era tutto più complicato in realtà rispetto a come lo è oggi, insomma, fare un viaggio. Però in realtà all'epoca per noi era una cosa, non era difficile, era semplicemente magari poco economicamente non fattibile, ma semplicemente era fatto così, non ci sembrava difficile, ci sembrava solo costoso al limite, la cosa più complicata era il costo magari. Sì, beh, certo, sì, ma forse subivamo meno. Allora, il problema è che oggi quando tu guardi al passato, non so se Carlo poi può convenire insomma con me su questa cosa, la guardiamo con gli occhi di persone che hanno vissuto quell'esperienza e persone che però vivono nel contesto attuale, no? Quindi se tu pensi al fatto che magari una volta per andare da Roma a Milano ci mettevi 6 ore, per dirti, 7 ore anche volendo, 7 ore, sì, sì. Alla fine, cioè, tu allora ti poteva sembrare, vabbè, era normale, era così, anche se dopo un po' ti rompevi le balle, chiaramente, no? Oggi lo guardi, che bello, ci volevano 7 ore, lo dici che bello perché oggi ce ne vogliono 3, 2 e mezzo volendo, quindi cioè, alla fine cioè, nel senso è un po' strano proprio il modo in cui chiaramente noi vediamo le cose, le vediamo ovviamente sempre dal punto di vista che è quello che cambia, no? Giusto, Carlo? Assolutamente, ma dobbiamo ricordare anche che il mondo, quello che diciamo spesso, che dico spesso, che attualmente viviamo in un mondo molto più veloce e molto più piccolo e più interconnesso rispetto a quello di 20 anni fa, 30 anni fa o 40 anni fa addirittura, perché semplicemente perché la comunicazione attuale, grazie a internet, alle tecnologie attuali eccetera, ci permette di essere perennemente collegati, in contatto in tempo reale, che è una cosa che cambia tutto, compreso il viaggio, perché ricordiamo che il modo di affrontare oggi un viaggio è spesso anche quello di fare tutto durante un viaggio, mentre prima non ci era possibile. Sono fare d'accordo. Tutto. Cioè, prima quando tu affrontavi un viaggio negli anni 70 o negli anni 80 eri disconnesso dal mondo per il tempo del viaggio, vivevi in una specie di bolla temporale in un mondo a sé stante che non esisteva nient'altro che il tuo spostamento, capito? Okay. Lo svantaggio era, lo svantaggio era quello del fatto che tu, non avendo magari oggi sulle tre ore che Italo porta Roma a Milano, per dirti, hai col portatile, tu comunque sei operativo, lavori, sei connesso, esatto, ai cellulari, esatto. Allora questa cosa non era, e magari poteva risultare più noioso, ma allo stesso tempo te godevi il viaggio, te godevi anche le persone che stavano accanto a te, guardavi il finestrino, era diverso. Infatti sì, devo dire magari per forza dovevi fare quello perché non potevi fare l'altro, però era così, però neanche lo immaginavi l'altro magari, cioè nel senso, no, non lo immaginavi neanche, però diciamo che di sicuro la noia c'era, perché non è, a volte sì, dopo un po', nei bambini sopraggiungeva, sì, è vero, ma è chiaro, va bene, però, comunque. Scusa, vai Davide. No, mi ricordo le giocate a carte, ci si organizzava comunque quando c'era un viaggio, ci si organizzava. Infatti ne parleremo adesso in puntata di sì. Cosa allora si faceva, perché poi ovviamente questo è un episodio sul viaggio, ma ovviamente il viaggio relativo anche ai mezzi di trasporto, e non necessariamente in senso strettamente tecnologico, ma in senso strettamente esperienziale, no? Cioè rispetto a quello che erano il nostro percorso con determinati, o le nostre esperienze con determinati mezzi di trasporto. La cosa più comune, diciamo, che noi possiamo considerare normale oggi, e che era sicuramente normale allora, anche se in numeri e in situazioni completamente diverse, era quello dell'automobile. Una famiglia aveva l'automobile, o perlomeno aveva un'automobile, o bene o male molte famiglie avevano l'automobile, insomma, magari non valeva per tutti, però in generale l'automobile a un certo punto, da status symbol, è diventata quasi una necessità, anche se poi in realtà i ragazzi non avevano così facilmente accesso magari all'automobile, perché magari negli anni 70 l'automobile ce n'era una sola per famiglia, se andava bene, no? E quindi magari dovevi condividere la macchina con i genitori, dovevi chiedere il permesso, dovevi chiedere le chiavi, insomma tutta una serie di situazioni che comunque alla fine già creano, voglio dire, un mondo che può essere simile rispetto a quello che succede oggi, ma molto di meno, perché oggi si tende comunque a magari a comprare la macchinetta ragazzino, ragazzetto, insomma, perché comunque poi ti prende la macchina e ti rompe un po' le balle, diciamo così, anche questo può succedere. Però la cosa che a me risalta particolarmente è ricordare, non soltanto tramite gli spot che si trovano anche su YouTube, ma con la mia memoria stessa, a pensare anche, c'è stato un momento in cui mio padre c'aveva delle macchinone, no? Ho detto già diverse volte, per esempio il top che lui aveva avuto era la famosa Lanciatema Ferrari, la Lanciatema, quella, l'edizione limitata col motore Ferrari, no? Che era il top, no? Cioè tu dici una macchina, e tutti dicono una macchina bellissima. Se tu la guardi oggi, no? Cioè le forme e i colori delle macchine degli anni 70-80 oggi sarebbero, no, ovviamente improponibili, ma cioè li guardi e dici, ma come cazzo facevamo a stare dentro queste cose spigolose che sembravano quelle che disegnavi quando stavi a scuola, no? Quelle un po' rettangolari, no? Sì. E ci piacevano anche, diciamo, che belle, che bella, ma che linee, capito? Cioè, se questa è una e cosa... quando guardavi le macchine, sai quando quattro ruote faceva vedere questa del salone di Monaco, che ne so, l'auto del futuro, facevano queste auto di diciamo che non ne sono mai state prodotte, erano di design, tutte arrotondate, sì, sembravano futuristiche, ma bella, carina, preferisco quella bella spigolosa. Sì, diciamo che c'era una visione del 2000, voi vi ricordate questa questione, no? Che negli anni 70-80 il 2000, si parlava del 2000, poi il 2000 era dietro l'angolo, no? Però a noi ci sembrava così lontano, no? Il 2000, infatti, sì, è vero. E questo si riportava anche, infatti siamo nel 2021, esatto, siamo nel 2021, che poi la cosa bella è che questa cosa si riportava anche nella fantascienza, no? Cioè, nel senso, negli anni 60 scrivevano questa cosa, nel 1999 quando saremo sulla luna con le macchine volanti, con le macchine volanti, e devo dire che però quello che dice Davide è giusto, anche se poi alcuni design molto, come posso dire, ambiziosi dell'epoca, comunque in qualche maniera oggi quasi si ripropongono, no? Quelli un po' più ovoidali, no? Quelle cose un po' strane della famosa macchina fantascientifica. E però una cosa veramente importante è il fatto che non c'era la minima attenzione a nessun tipo di rapporto con l'emissione, l'inquinamento, certo. E la puzza di smog dentro le città era proprio, cioè, quando tu accendevi la macchina era un piacere, era proprio col senno di poi mi viene da pensare se la nebbia a Milano era vera nebbia o era smog. Certo, guarda, quindi... negli anni 70 era dovuto allo smog, sicuramente. Vabbè, allora questa cosa poi, la potremmo dire poi... di Roma, cioè, nel senso, però Roma... sì di tutte le grandi città, ma sai, però famosa Milano per la nebbia, no? Cioè, e quindi viene quasi da pensare, ma sarà stata nebbia o no? Te ne rendi conto, perché negli ultimi, diciamo, 10 anni 15 anni è praticamente sparita, esatto. I nebbioni che c'erano negli anni 70 almeno, però è cambiato anche il clima, c'è da dire. Vabbè, diciamo che a Roma la nebbia non c'è mai stata, però lo smog sì, cioè, nel senso, tu si vedeva. La cosa è, allora, succede ancora oggi questa cosa, anche se in maniera, noi non ci rendiamo proprio conto, perché noi vediamo le polveri sottili, i rilevamenti, no? Cioè, attenzione, livello d'allarme, ma a livello d'allarme noi abbiamo respirato il catrame per per vent'anni, perché tu quando tornavi dalle vacanze e tornavi in città sentivi veramente la puzza, cioè proprio la puzza, sì, del brutto, cioè una cosa... Io abitavo in campagna all'epoca, adesso invece dove abitavo io praticamente non ti accorgi di passare da Milano a Settimo Milanese, ecco. Magari tu conosci la zona di Settimo Milanese, Davide. Sì, sì. Adesso vai da Milano a Settimo e non ti accorgi che sei passato da Milano a Settimo. Quando io ero piccolo, in mezzo c'erano chilometri di campi di coltivati e campagna varia, quindi te ne accorgevi. E quando io andavo a Milano a scuola, io andavo a Milano, prendevo la corriera, l'autobus, dopo ne parleremo, e mi ricordo che quando tornavo a casa la sera sentivo in bocca un sapore amaro, proprio nella saliva, e mi rendevo conto che era quello che avevo respirato a Milano, praticamente. Che cosa, sì, che se sì, rimanevo a Settimo invece un po' non mi succedeva. Quando andavo a Milano e tornavo indietro sentivo proprio questo amaro in bocca, che era il catrame, appunto, la schifezza che respiravamo in giro per la città. Ed era comunque normale, perché se vedete, ci sono ancora in giro, circolano delle specie di documentari fatti in bianco e nero degli anni 60, dove quando si parla di Milano, la città che si muove, il caos, eccetera, sì, si vedono sempre queste macchine che quando il tubo di scappamento che gocciola, che fa il fumo dalla Madonna. Beh, era normale dire ci sono sti macchinari che fanno sto fumo, le ciminiere che fumano, si lavora, capito? Ma anzi, no? in realtà paradossalmente, secondo me questa cosa era proprio vista come in maniera diametralmente opposta rispetto a oggi, cioè era il segno dell'operosità, no? Dell'industrializzazione, del futuro, no? Oggi noi vediamo comunque il tubo di scappamento che, cioè, per esempio, noi quando ci capita di vedere quelle volte che c'è la macchina smarmettata o con dei problemi che comincia a buttare fumo a tutto spiano, e ci dà fastidio questa cosa, perché oggi non soltanto abbiamo comunque acquisito una certa sensibilità rispetto a questa cosa, però secondo me nel passato, diciamo negli anni 70, questa cosa era lo smog della grande città industrializzata, ci stava, no? Facevi vedere le ciminiere delle industrie, cioè sporco uguale futuro, uguale ricchezza quasi, no? Cioè, nel senso, produttività. Si lavora, gente che lavora. Qui c'è gente che lavora. I viaggi lenti e spesso, e questo l'abbiamo detto anche l'altra volta quando abbiamo parlato, grazie alla puntata di Davide sulle vacanze, spesso pittoreschi. Ci sta un videogioco, Wheels of Aurelia si chiama, un videogioco italiano. Ah sì sì, l'ho visto. Un videogioco italiano, tra l'altro sì, videogioco relativamente, perché sì, devi spostare la macchinina ogni tanto, devi seguire un po' il percorso, però è prevalentemente basato sui dialoghi e racconta un po' la storia del nostro paese negli anni 70, quindi tutti i vari temi anche politici, sociali e via dicendo, però funzionava così, c'erano sti viaggi, a volte si faceva molto di più l'autostop, oppure le famiglie partivano tutte imbarcate con queste macchine che dondolavano a destra e a sinistra, cioè il concetto del viaggio vita. Oggi nel senso, nel rapporto con la nostra macchina, vediamo la macchina veramente come un'estensione di noi e ci vergogniamo se magari la macchina è fuori posto, no? Per esempio, invece allora la macchina era veramente uno strumento di trasporto della famiglia dal punto A al punto B. Che dite? Sì, no, sicuramente sì. E poi sul discorso del lento, il lento era anche questo, è lento visto con gli occhi di adesso, ma visto dagli occhi di allora era veloce, il tempo normale che ci voleva per andare. Era il tempo che ci voleva. No, sì, a volte anche veloce, perché quando dicevano questa macchina fa 90 km all'ora, mezzozzoni, che fai 90 km all'ora. Che poi io sono partito da Milano, sono arrivato a Riccione, ci ho messo 4 ore. Sei andato in aereo? Esatto. Che 4 poi ore sono poche anche adesso. Sì, no, adesso ho dato un numero a caso, però sai, non esistevano in controparte del fatto che comunque erano lenti per tante questioni, ma non perché lo volessi tu, perché proprio i mezzi erano lenti e le strade magari non erano delle belle strade, tutto quello che vuoi. Ricordiamo che dal punto di vista autostradale, l'Italia dal punto di vista stradale, insomma, forse sul tessuto interstatale, cioè, diciamo, forse ci poteva anche, ma insomma noi a livello di strade lo sviluppo è stato molto lento da questo punto di vista. Sì, insomma, cioè. È vero. La Milano-Brescia aveva il fondo in cemento, neanche in asfalto. Il cemento li ho visti solo all'estero, in Italia non l'ho praticamente mai vista. Era stato fatto in cemento perché era il periodo dell'autarchia, credo, dai, quel periodo in cui del ventennio fascista, in cui bisognava cementare tutto, no, fare le cose con i materiali italiani e non dall'estero, siccome il catrame insomma veniva esplorato, hanno deciso di farla in cemento, è durata un po' di anni, poi l'hanno rifatta ovviamente. Però era caratteristica perché era bianca, grigia praticamente. Sì, poi era lastrone, io mi ricordo le autostrade tedesche erano tutte lastroni di cemento, non so perché, avevano scelto così, non ci ho mai fatto un ragionamento, a dire la verità, sul discorso. Comunque in controparte, viaggi lenti, però ricordiamoci che sulle strade di quegli anni non c'erano né autovelox né ma c'erano anche meno regole, cioè ragazzi, chi aveva la Maserati Super andava a 200 all'ora, cioè, se ne sbatteva i maroni. E poi io contributo da Davide Gatti. Ok. Non io. L'altro Davide Gatti. Esatto. Buonasera, Artemio. Ciao Artemio. Ma pensavo che era una canzone. Oggi vieni a vedere lo spettacolo. No, vado a casa. Il treno. Oh, andiamo. No, l'ho già visto. Andiamo tutti qua, andiamo. Forza. Vabbè, andiamo. L'ultima volta sono arrivato in ritardo. Io ho visto solo. Che sedie? Se arrivano rispettati. Non hai mai visto il ragazzo di campagna? No, lo devo vedere. Dopo lavoro. Questa è la scena clou di quando guardano il treno. Eccola, arriva! Che passa. Com'è bello! È impressionante. Questi sono umarelle organizzate. Meno vagoni. Esatto. Una volta c'erano meno vagoni, mi ricordo. Era uno spettacolo per loro. Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, Vabbè, ma comunque al treno ci arriviamo dopo, ragazzi, perché ovviamente noi adesso cerchiamo anche un po' di accelerare. Stavo dicendo che io soffrivo di mal d'auto. Ecco. Vabbè, non so se dirlo adesso o dopo, però per me era la tragedia, perché per me i viaggi in macchina erano tutti una tragedia, perché soffrendo di mal d'auto Mio padre, tuo padre aveva la macchina quella fighissima, cosa era più bella che hai detto? Sì, la Lanciaterra. Mi ricordo. Sì. E mio papà invece aveva comprato anche lui una macchina super figa, aveva preso la Giulietta dell'Alfa Romeo, che poi colore orrendo adesso, però per l'epoca era figo, tipo verde metallizzato. Uguale verde pisello. Mamma mia. Metallizzato verde pisello con gli interni in Alcantara, quindi una roba. Allora c'è Gianluca Mattei che scrive che quando era piccolo non c'era ancora il trafalo del Gran Sasso, quindi per andare al mare dall'Aquila dovevano passare per le Capannelle, che non so cosa sia, ma è veramente un'avventura con la Prince. Ma ricordate, ecco, la Prince? Anche la Prince. La Prince verde, verde, verde, giustamente. Verde, infatti, verde metallizzato. Prince verde, andavano in montagna, in strada, vabbè. Comunque, una cosa importante che capitava, che i viaggi, quando si andava dai nonni, no, per esempio in campagna, o si faceva un viaggio un po' più lungo, che era quello magari dell'ora, l'ora e mezza per andare al mare, si facevano di notte. E se vi è mai capitato di fare i viaggi di notte era più facile perché c'era meno traffico e si arrivava, i bambini dormivano soprattutto. Tra l'altro, questa cosa dei bambini che dormivano, io non so se voi avete quella stessa esperienza, però mi ricordo che io in particolare, ma questa cosa l'ho sentita da tantissime altre persone, che per farmi addormentare ogni tanto si scendeva giù, si andava in macchina, mamma, papà in macchina con noi piccoli, e faceva il giro in macchina, noi ci addormentavamo e poi tornavamo su e ci portavano in braccio a letto. Insomma, questa è una cosa L'ho fatto con mia figlia quando era piccola, sperimentato ed era reale. Non si addormentava, l'ho caricata in macchina, gli ho fatto due giri del paese e si è addormentata, l'ho riportata a casa. È una cosa tipica che hanno fatto in molti e che si sente molto. No, funziona. A me funziona ancora adesso, se mi metti in macchina dietro dormo, all'istante parto. Intanto salutiamo Giuseppe V che si è unito alla chat, probabilmente sta ascoltando, immagino, perché insomma per unirti proprio in questo momento. E io ho un ricordo molto particolare su questa cosa qui, con come si chiama? La Meari. Mio padre c'aveva questa, ecco, la GP. Cos'è sta Meari? Sai che era una Jeepetta tutta di plastica. Con i finestrini di plastica, cioè nel senso, in realtà di dietro, la parte di dietro non c'aveva veramente i finestrini, capito. Era praticamente una copertura di telo di plastica, di telo, sì, e di plastica spessa, trasparente, bravo, esatto, che tu tenevi, sì. Attaccavi. E mi ricordo questo viaggio, mia madre, mio padre davanti, io e mio fratello nel mezzo praticamente, e di dietro un caprone. Tutto sto viaggio che per andare a San Savino noi ci mettevamo 3 ore e mezza, allora oggi ci mettiamo 2 ore e 20 per arrivarci, considerate veramente quasi la metà del tempo, con sto caprone che puzzava quanto la morte, per farvi capire perché mio padre aveva comprato un caprone e lo doveva portare su a San Savino, perché mio padre era così, cioè non sentiva niente a nessuno, e nel bene e nel male insomma faceva queste cose strane. E voi immaginate le bestemmie di mia madre che doveva far viaggio con sto caprone che puzzava come la morte, e noi di dietro ragazzini che avevamo pure paura di sto caprone, capito? E ci credo. Vabbè, no, mio padre invece andava a caccia. Cioè Gianluca dice che le Meari oggi sono tutte a Lampedusa. Vabbè, raccontaci, vabbè. Spiegaci perché. No. Vai, mio padre andava a caccia e aveva i cani da caccia, e per andare a caccia usava il Renault 4, perché era tipo un gippone brutto, almeno ma 4, sì, quella poteva anche cappottarla, buttarla, esatto. Voleva stare in piedi sempre. Il problema è che i cani da caccia, i cani in generale bagnati, avete presente l'odore di cane bagnato? Sì, ho presente, sì. L'odore orrendo dei cani, esatto. Bagnati, si dice. Ecco, salivano su questo Renault 4 e mio padre andava a caccia e tornava indietro. Poi siccome all'epoca il Renault 4 era la macchina quella di riserva, e io avevo appena fatto la patente, che macchina dovevo usare? Ecco, fare macchina. Io uscivo con questa macchina che sapeva di cane bagnato. Abbiamo capito perché non cuccavi da bagnato. Esatto. Da schifezzo, mi ricordo sto odoraccio della sappiate che ho fatto la patente a 22 anni, cioè dell'87 ho fatto la patente, quindi ho cominciato a guidare già quasi negli anni 90. Sappiamo. Io l'ho fatta nell'88, però avevo 18 anni. Lo so, voi siete più giovani, cari miei. C'è l'omino Viola che, per esempio, la butta subito sul tecnologico, chiaramente. Sì, Robert, era giusto per ricordare che c'è stata gente, c'è gente che negli anni 80 aveva il telefonino in auto. Il telefonino, telefonino non è il termine adatto, secondo me. Esatto. Si chiamava... Aveva il telefono trasportabile. Telefono mobile, credo. Mobile. Che era una specie di 24 ore con un'antenna da 3 metri sopra al tetto, perché era su 72 MHz, mi pare, la frequenza di trasmissione. Era radio, poi il telefono vero era a casa. Tu devi comunicare via radio verso casa, non c'era ancora la rete cellulare, e c'era gente che viaggiava con questo. Tu quando vedevi una macchina con un'antenna da 20 metri sopra dicevi: che è questo? Sì. Poi era un radio quando ero ragazzino, ne ho visto qualcuno, sì, in effetti, però vabbè, non penso persone totalmente inavvicinabili per noi, insomma. Anzi, chi vi ricordo, ecco, mi hai fatto venire in mente che quasi tutte le automobili, quella che aveva mio padre almeno, ma credo quasi tutte, avevano l'antenna quella elettrica che saliva, quella della radio. È vero, sì. Che adesso non esiste più, però insomma all'epoca viaggiavano molto queste antenne elettriche, era così, faceva scena, insomma, fantascientifica sempre, no? Del fantascientifico io mi ricordo, comunque, ritornando alla tema di mio padre, per esempio tu quando accendevi la macchina c'aveva il computer di bordo, mi ricordo, c'era sta cosa del computer di bordo, no? Che faceva molto kit, no? Perché all'epoca era un po' così, e si inizializzava tutto il sistema, e quindi c'erano tutte queste lucettine che piano piano si accendevano fino a una sorta di beep finale che diceva: vabbè, tutto pronto adesso. Ma tra l'altro era pure gagliardo, perché la macchina regolava la durezza anche del volante a seconda della velocità e del tipo di guida che tu facevi, cioè, nel senso, per allora era roba coi controcoglioni, insomma, certo. ce l'aveva anche mio padre, che mi ha prestato per andare al mare, perché appunto non avevo, io avevo un Alfa Sud, per andare al mare in cinque eravamo, anzi, mi ha prestato la sua. Lui aveva un'altra macchina, aveva due macchine, quella della ditta e quella sua personale, questa era la sua personale, me l'aveva prestata. E sono riuscito a rompergliela per strada. Ecco. La cinghia di distribuzione a Bologna, tornando di notte. Vabbè, almeno tornando, dai, ormai la vacanza l'avete fatta. Sì, però carro attrezzi, poi siamo dovuti tornare su altre macchine, un casino. C'è una domanda per te, Davide, no? C'è una domanda per te, perché questo nuovo amico Gianluca V... praticamente ha detto che mi ha portato Davide Gatti, l'ho ascoltato casualmente e mi ha colpito. Vorrei sapere se Davide ha ancora gli abbaglianti a 433 MHz. Non so minimamente di cosa state parlando, ma lui ride di no, in questo momento no, però li ho avuti per molto tempo. Che c'è? Sì, è perché è un episodio di un podcast dove ho collegato ai fari abbaglianti della macchina il telecomando del cancello. Sai che il telecomando fondamentalmente va a 12 volt, ha dentro una batteria da 12 volt i telecomandi hanno. Io l'avevo ficcato dentro, praticamente dietro al fanale, e quando arrivavo nel box facevo una abbagliata e accendevo il telecomando e si apriva il box. Madonna, quindi si apriva abbagliando. Che coattume, guarda, è incredibile. Però se ci pensi era figata, perché tu arrivavi a bagliatina, poi che se tu abbagliavi si azionava lo stesso, ma magari non eri vicino al tuo cancello e non succedeva niente, no? In realtà quando tu eri vicino in zona del tuo cancello, a bagliatina tac e si apriva, quindi è magia quasi. Bene, Davide, andiamo al punto dopo, che vedo che c'hai due punti dopo addirittura, incredibile. No, vabbè, sì, non sono importantissimi, però sempre nel ricordo di questi viaggi in automobile, qualsiasi fosse la destinazione, se era per più di 2 o 3 giorni, si installava il portapacchi e si cominciava a fare il Tetris per incastrarci dentro tutta la roba, per poi arrivare, quando arrivavi a destinazione, scoprire di aver dimenticato comunque almeno un quarto della roba a casa, come quasi sempre arrivi: ma l'hai preso tu quello? No, chi l'hai preso tu? Dov'è? Niente. Bestemmia, eppure riuscivamo sempre a riempire la macchina dietro, davanti, in mezzo, sui piedi, di fianco uno all'altro, il portapacchi, roba dappertutto, e poi ci mancava sempre roba. Non so voi se avete qualche aneddoto della più grosse dimenticanze in assoluto. Allora, no, di questo nome c'è sì, nel senso, ma ci dovrei pensare, adesso su due piedi non mi viene in mente, però sì, è vero, è come dici te, cioè, nel senso, ma poi diciamo che il discorso del portapacchi e del Tetris, anche poi tra l'altro allora non è, cioè non pensavi al Tetris, pensavi al domino, pensavi all'incastro e basta. Comunque c'è tutta una cinematografia, insomma, italiana su sta roba qua. Quindi, sì. E poi il viaggio fu mortale, portapacchi, un rombo della Madonna. Ma tutto faceva rumore, tutto faceva rumore, cioè assolutamente. Io invece non me lo ricordo perché a casa mia, avendo la casa al mare e noi andavamo al mare nella casa, la casa al mare aveva già le cose lì, quindi andando al mare non, cioè i nostri viaggi non erano mai con tantissimi roba, perché ce n'era già tanta lì, già nell'altra casa. Quindi. Sì, ma anche noi per andare al mare, quando andavamo dai parenti a trovare i nonni, quando tornavamo con le cassette, no, io avevo di verdure, un papà cattivo che non andava mai a trovare nessuno. Salami, prosciutti, ci davano un sacco di roba, cioè installavamo il portapacchi per portare a casa. È vero, anche questo, sì. Vabbè, poi devo dire che noi abbiamo sempre avuto macchine con il portabagagli abbastanza capiente. Io mi ricordo, insomma, un incidente sull'autostrada del Sole con mio padre, con la neve, con la macchina che cominciò a pirouettare, e tutti hanno pensato alla morte. Io ho pensato al Commodore 64 che mi avevano appena regalato, per esempio, che stavano in porta magari. Quindi quando siamo andati a sbattere ho detto il computer. E si è salvato, sì, ma era già difettoso. La macchina distrutta, ma in realtà io poi dopo nel passare degli anni ho rivissuto questa cosa nella mia memoria. In effetti è stato brutto, perché veramente stavamo piroettando andando verso il bordo dell'autostrada, quindi andavamo pure di sotto, insomma. Vabbè, insomma, una cosa un po' particolare, e con la neve, allora, insomma, erano cose che succedevano, insomma. Però ecco, convengo anche col discorso che dice giustamente Carlo sul fatto che sti viaggi non finivano mai a volte ed era noioso, perché se eri fortunato te potevi leggere un fumetto. Però molti ci avevamo mandato. Io soffrivo di mal d'auto tanto, no? Poi mio padre, come ti dicevo, ha preso la Giulietta Alfa Romeo nuova di pacca, con i seldiri interni in Alcantara, quindi quella specie di tessuto pelosino, sì, esatto. Strafigo. Io ovviamente, primo viaggio con questa macchina, cosa faccio? Vomito in macchina, gli spiaccico tutto il vomito sul sedile. Quella macchia lì non è più andata, ha provato a lavarla in tutti i modi, 20 anni di macchina, 20 anni perché di macchina, tu hai Alien sedile. Al posto degli acidi e quindi ogni volta che prendevo quella c'era la mia strisciata lì di marrone e l'Alcantara. A me mi è capitato una volta con una vecchia zia che portavamo, e dietro eravamo io e mio fratello e sta vecchia zia. Io stavo in mezzo, quindi stavo vicino a sta vecchia zia che doveva vomitare, però si vergognava a dire che doveva vomitare, e quindi ha vomitato in silenzio, cioè proprio cercando di nascondere il fatto che aveva vomitato. Solo che, cioè, non è che si nasconde il vomito, cioè nel senso, no, capito? Però a un certo punto mio padre fa: ma che è sta puzza? E se la prendeva con me e mio fratello, che pensava che avevamo vomitato, no? Invece era sta vecchia che poteva essere, vabbè, io anche che era andata in decomposizione, cioè nel senso, era standard per me. E purtroppo io volevo, siccome per me il viaggio in macchina era la roba più brutta del mondo, a parte che stavo male, poi la noia, perché al contrario del treno, di cui parleremo dopo, dove potevi fare un sacco di cose, in macchina non potevi fare tante cose, e io non potevo neanche leggere, perché se leggevo mi aumentava il mal d'auto, quindi non potevo neanche leggere i miei fumetti. Quindi io e mio fratello, nel viaggio di quando si andava al mare, dovevamo inventarci come passare il tempo, anche perché non dormiva, cioè, anche partire tipo alle 5 di mattina non dormivo, stavo già sveglio, partire alle 3 di notte stavo sveglio comunque, quindi bisognava trovare un modo di far passare questo viaggio interminabile, che poi era, in realtà erano 3 ore di viaggio, perché era da Milano alla Liguria, quindi non è che stavamo parlando di, però per me da bambino era qualcosa di assolutamente brutto, noioso. Beh, certo, se poi ti faceva pure male, è chiaro, la vivi male, esatto. In generale, insomma. Comunque, e quindi le cose da fare in viaggio bisognava inventarsele. Io mi ricordo, per esempio, contare le gallerie che c'erano, no? Uno dei divertimenti, metterti a contare, sì, contare le gallerie, macchine di un certo colore, contare le macchine. Io mi ricordo contare le gallerie, quella me la ricordo. Poi una volta addirittura ci siamo messi a segnare tutti i nomi delle gallerie, che se, prima di entrare in galleria c'era il cartello col nome della galleria e noi cantavamo, e quindi, noi cantavamo, mia mamma cantava e noi cantavamo, era un modo per far passare il tempo, insomma, quindi sì, ci abbiamo provato a cantare, ma io mi ho studiato come una campana, facevi, che so, quel mazzolino di blah, blah. Comunque, comunque Andrea ci dice non dimentichiamoci che non avevamo spesso l'aria condizionata, io leverei spesso, cioè, no, togli spesso, non esisteva, non l'avevano ancora inventata, per cui probabilmente c'era, ma cioè, no, no, ma cioè io la prima aria condizionata appunto nella tema di mio padre, ma quella macchina costava 80 milioni, io non so neanche come ha fatto a ruballa sta macchina. Comunque, esatto, per cui d'inverno l'aria calda con la presa diretta dal motore, sì, certo. Era così. L'inverno era così, assolutamente. Vabbè, ragazzi, io andrei veloci con finestrini abbassati. Sì, esatto, il ventilatore al massimo. No, che ventilatore, mica esisteva il ventilatore. Finestrini abbassati. Io c'erano le prese. Ho piantato sulla mia fassuta il ventilatore, quello vero, con la pole palle, ce l'ho inficcato. Ah, no, qualcuno lo faceva pure, qualcuno più ingegnoso, sì, diciamo così. Comunque, un secondo capitolo è quello dei taxi. Qui andrei anche un po' veloce perché in realtà poi non è che c'è molto da dire, poi ognuno racconterà magari le proprie esperienze. Ma io ricorderei in maniera primaria che i taxi erano gialli, cioè questa era una cosa che tra l'altro io l'ho sempre trovata una cosa di una civiltà incredibile, perché comunque tu il taxi lo riconoscevi a chilometri di distanza, cioè nel senso oggi il taxi bianco devi vedere che c'è il targhettino sopra, la cosa è un'altra, quindi insomma, però il taxi giallo, che poi dopo alla fine riuscirono a far cambiare a quanto pare questa cosa del poter avere le macchine di altro colore, quindi in quel caso fu convenzionato il bianco, perché poi le macchine gialle erano irrivendibili fondamentalmente, anche se io le trovavo pure bella, mi piacevano le macchine gialle, insomma. Sì, poi era giallo canarino, ricordiamolo. Era giallo. No, a Roma erano giallo gialli, erano belli gialli intensi. Cioè. Sì, giallo forte. Ma giallo. Sì, giallo irrivendibile. Nessuno si sarebbe mai comprato una macchina gialla che diceva che scrive per un taxi. Esatto. Era così. Diciamo che sul taxi, no, sul taxi la cosa incredibile è che ovviamente, ma questo lo vedremo poi in generale su tutto all'epoca, non esistevano regole sul fumo, cioè tu magari entravi dentro un taxi e puzzava di fumo perché se non aveva fumato il cliente aveva fumato il tassista, e ricordiamoci, esatto, che negli anni 70 fumavano tutti. Sì, non era un problema. Donne, cioè, uomini, si pensava donne, di meno. Cioè. Ma basta guardare le trasmissioni televisive dell'epoca, lo vedi, fumavano i conduttori mentre presentavano le trasmissioni, fumavano al telegiornale, fumavano sempre. C'era la nuvola di fumo perenne, praticamente. Beh, vabbè, una cosa incredibile è il costo, cioè i taxi costavano tantissimo. Tra il fatto della chiamata e tutto quanto, oggi il taxi non è economico, però diciamo che in proporzione a allora, insomma, io mi ricordo che quelle pochissime volte che mi è capitato da ragazzino con mia madre per urgenze o cose particolari di prendere il taxi, comunque alla fine erano sempre soldi, insomma, e quindi alla fine non, sì, non andavamo quasi. I taxi di allora, a parte gli uomini di affari, era solo per emergenze, perché non avevi nessuno che ti poteva accompagnare, non avevi due macchine, non c'era una copertura di mezzi estesa. Adesso i taxi sono solamente, quasi non dico per i turisti o per gli uomini d'affari, ma difficilmente una persona standard va a prendere un taxi, per cui è un po' diminuito quello che può essere il guadagno che fanno i taxi, che all'epoca invece erano uno strumento quasi indispensabile a volte per anche una persona comune. E c'erano anche meno mezzi di trasporto, appunto, quindi dovevi andare all'aeroporto, magari dovevi prendere il taxi perché coi mezzi era un casino. Ma perché coi mezzi era un casino, poi dopo arriveremo anche un po' a questo, perché poi chiaramente. Però ecco, diciamo che io ricordo che c'è negli anni nell'80 in particolare, io dovevo fare delle visite in una clinica tutti i giorni. E ci voleva molto per arrivare con l'autobus, e quando finivamo, a volte anche se arrivavi alle 3, a volte finivamo alle 6, alle 6 e mezza, e quando eri così stanco, ragazzino, annoiato e tutto quanto, non vedevi l'ora di stare già a casa, invece tu devi fare un'altra ora di autobus per tornare a casa, anche se stavi nella stessa Roma, no? E quindi quella volta che anche mia madre era veramente particolarmente stanca e decideva di prendere il taxi, per me era un, cioè era una gioia, proprio mi commuovevo proprio dalla gioia, perché sapevo che sarei stato comodo e che sarei arrivato molto prima, insomma. E giustamente Davide ci dice il tassametro che diciamo che qui poi dopo raccontate anche un po' la vostra, il tassametro che era un po' a cazzo di cane, diciamo così, cioè nel senso. Sì, vabbè, in realtà mi agganciavo a quello che hai scritto tu, cioè che non esistevano navigatori, ma conoscevano a memoria tutte le strade del vero. Quello è incredibile. Non avevano tutto città, dove devi andare? Lui ti portava. Io dicevo, ho aggiunto, ottimizzati i viaggi che faceva per il tassametro, non ottimizzati per il tuo, per il tempo di, certo, di viaggio. Certo. Vabbè, quello è ancora così pure oggi, a dir vero, perché. Cioè, sì, beh, però se mettono il navigatore indicativamente cerca di farti fare la strada migliore. Vabbè, ma se tu vedi ogni tanto, infatti, con corditino là, capito? Cioè, nel senso, che cazzo stai a digitare? Vabbè, comunque, dai, questi sono discorsi un po'. Però allora sicuramente se la prendevano comoda, molto comoda. Il tassametro non era a chilometraggio, ma era a tempo. Questa è una cosa importante. Però questa cosa del fatto che non avevano i navigatori e che comunque conoscevano tutte le strade, a me mi ha sempre impressionato. Cioè, sì, ma io l'ho scritto anche perché erano un po' guide turistiche anche del posto, comunque. Almeno io sì, i taxi, io mi ricordo, ho un ricordo vivido dei taxi a Roma quando ero piccolo. Perché sì. Quando io scendevo con mia mamma a trovare gli zii di Roma, a Roma mia mamma prendeva il taxi per andare dalla stazione alla casa degli zii, eccetera, e prendevamo il taxi, e mi ricordo che questi tassisti, quando entravi, iniziavano a parlare di qua e di là e di su, di giù, ti raccontavano, cioè, continuavano a parlare. Era un rapporto, esatto. Rapporto, e poi soprattutto iniziavo a dire: ma l'avete visto, non so, non dico il Colosseo, raccontavano altri monumenti di qua di là, e allora dice, magari facevano un altro giro, perché no, ma no, dovete vederlo, no, facevano il giro, ecco, vedete, certo, qua, per finire la mignota turistica. Ma se ci pensi, era il valore aggiunto del taxi, c'era anche un rapporto umano, non era solo ti porto da qui a là, adesso è proprio assettico totale, tu entri, ti importano, via. Poi ti chiedono chi eri, dove andavi, perché sì, eri arrivato. Era quasi piacevole, a dire la verità. Era così, invece adesso quindi, le poche volte che prendo un taxi è sembra di prendere un'auto a guida automatica. No, devo dire che a Roma ancora sta cosa del chiacchierone, del taxi chiacchierone che ti racconta le cose, insomma, cioè, comunque ti tiene, c'è un po', ma però questo è un po' anche nel tessuto della città, anche se tante cose sono cambiate anche da quel punto di vista, perché a volte diciamo che il tassista negli anni 70-80 mai entrava in discussioni delicate, mai, cioè nel senso, comunque era sempre una cosa proprio basata sull'intrattenimento, no? Sul fatto magari di spezzare anche il disagio, no? Nel senso che magari comunque non c'era poi tutta questa abitudine. Oggi invece, come mi è capitato a Milano col tizio, insomma, veramente poi alla fine, cioè, finisci quasi che ce litighi col tassista, insomma. E tra l'altro Uber tutta la vita, ricordiamocelo sempre dalla parte di Uber. Comunque io mi sposterei a questo punto, se non avete molto altro da dire, sugli autobus e sui tram, che era una cosa. Poi tra l'altro qui io vedo delle annotazioni, perché mi sembrava che non c'era Roberto Tomaiuolo in questa puntata, e allora, dato che non c'è Carlo Sant'Agostino, no, hai fatto la descrizione a Milano, qua, di a Milano, quello che ti ricordavi, certo, a Milano era, certo, tutto diverso, quindi a me sembra strano che negli anni 70 a Milano non c'erano i bigliettari. Comunque, vabbè, può essere, no, non c'era. Comunque non può essere così, non c'era. Vabbè, io me li ricordo tranquillamente, comunque, e non erano gli anni 60, saranno stati gli anni 70, che non c'erano, mi sembra, c'erano sugli auto, sui, allora, in città non c'erano, c'erano i bigliettari negli interurbani. Ma degli interurbani, cioè, io me li ricordo anche nel tram, se devo dire la verità. Allora, infatti, qui cioè, sarebbe da fare una correzione. In effetti, il bigliettaio, quindi con il posto proprio a sedere del bigliettaio, con la cassa, c'era nei tram prevalentemente. Forse negli autobus non c'era. Può essere, nei tram c'era. Però nei tram mi ricordo che poi, quando poi questa cosa della figura del bigliettaio è venuta meno, e però rimanevano ancora queste postazioni con la cassa, no? E dentro questa specie di cassetto, di quello a fisarmonica, no? Adesso quelli che si aprono tipo serrandina praticamente, dentro ci trovavi la merda proprio dentro, cioè nel senso le gomme da masticare, le cose, cioè uno schifo incredibile. Il vomito di Carlo. Esatto, anche. No, non mal d'autobus, no? Quindi questo autobus e treno stavo benissimo. Quindi questo, diciamo che prevalentemente mi ricordo nei tram, in effetti, potrei Potrei dire una cosa non corretta se dico che c'erano anche sugli autobus. Io vi vedo sempre in provincia e prendendo un pullman per andare a Milano prendevo gli interurbani, probabilmente gli interurbani frequentemente lo vedevo. E lì c'erano, perché gli interurbani proprio era anche di gente che di solito non prendeva l'autobus di frequente magari, e quindi c'era per forza. Tanto Roberto Domaiuolo in chat ci manda una foto di una nave stellare nella quale lui è inserito, scusandosi per l'assenza, ma l'abbiamo detto insomma che sei giustificatissimo per la tua assenza, ma tanto poi Carlo fa le tue veci a Milano così. Comunque, a parte questo, io mi ricordo per esempio a Roma a un certo punto sugli autobus, in coda agli autobus c'erano questi enormi macchinari per fare il biglietto, che erano queste biglietterie elettroniche che poi piano piano sono diventate sempre più piccole, ma iniziano dei casermoni giganteschi che facevano un rumore e tu mettevi la monetina e quello ti stampava il biglietto. E dentro l'autobus, sì assolutamente dentro l'autobus. Erano cose sperimentali, evidentemente tecnologie avveniristiche, sì. Che sì, esatto, che richiedevano un'energia supplementare per farli andare. Tram gli avevano ingrandito i cavi perché assorbiva 2 kW. E poi mi ricordo anche quando gli autobus a Roma, specifichiamolo perché a Milano no, è tutto diverso, a Milano erano già avanti prima del tempo, gli autobus erano verdi e non arancioni. E tra l'altro un autista una volta, sempre in uno di questi tanti viaggi che facevo quando andavo in questa linea, che non devi disturbare. Ma allora non esisteva sta cosa, anzi tu ci parlavi, lui chiacchierava con te, poi sei ragazzino, Roma era così, esatto. Milano ti fucilavano già negli anni 70. Milano, ma rotto il cazzo sto Milano qua, Milano e là. Comunque vabbè, ma questo al di là di tutto, cioè la cosa carina è che lui mi spiegava una volta uno che a Roma gli autobus, però questo mi è sempre puzzato un po' da leggenda metropolitana e chiaramente non ho mai tenuto molto in considerazione, però ci sta perché è degno di nota ad essere raccontato. Gli autobus prima non erano arancioni ma erano verdi per via della guerra, cioè nel senso che comunque era collegato al fatto che comunque gli autobus da verdi erano meno visibili durante i bombardamenti, che poi io non credo che ci fossero gli autobus che andavano in giro durante i bombardamenti, però insomma questa è una storia che mi è stata raccontata, io ve la riporto per quello che è, insomma. Ma a Milano non ci sono stati i bombardamenti, giusto? No, non mi sembra. Ci sono stati parecchio, però in effetti, come diceva Davide, che non aveva capito che parlavano di autobus, i tram a Milano prima erano effettivamente verdi, i tram però. Quindi può essere che il verde comunque sia qualcosa di più antico come colore standard per i mezzi pubblici. Poi sulla motivazione non te lo so dire. Ma secondo me perché erano anche magari mezzi militari che venivano riadattati, chissà, cioè voglio dire, sicuramente ci saranno state le motivazioni, cioè non è che per quanto riguarda. Poi dopo piano piano hanno cominciato ad arrivare quelli arancioni, vabbè, poi la distinzione tra quelli arancioni e quelli blu che sono quelli interurbani, diciamo. A Milano era così perché gli interurbani erano blu, anche qui non ti so dire come mai gli interurbani blu e quelli cittadini arancioni, però questa era. Poi sono diventati tutti arancioni a un certo punto, a partire da circa dagli anni 90 credo, gli autobus, anche gli interurbani. Gli interurbani a Milano, la cosa che si notava anche è che gli interurbani erano a due vagoni, erano autoarticolati, con la parte in mezzo, quella fisarmonica che si piega. Sì, con il coso rotondo che faceva un effetto stranissimo, esatto, quando girava il pullman, perché era un doppio pullman in pratica, due carrozze, esatto. Questa parte centrale che si poteva anche stazionare, quando tu stavi su questa roba qua il pullman si girava, ti girava tutto, sembrava stranissimo. Infatti era divertente dai ragazzi magari mettersi lì in mezzo proprio alla giunzione dei due. Sì, è vero, questo è vero. Esatto. Tra l'altro era anche più divertente il tram in generale, perché per esempio il tram, viva Milano, viva Milano. Ecco, bravo. Infatti, vedi, noi stavamo a parlare proprio di questo, perché in realtà il prossimo punto è che a Roma, per esempio, negli anni 70 c'erano poche linee anche mal gestite, a volte erano interne all'8, ma a Milano invece c'erano più più linee di quante in realtà ce n'era bisogno. Infatti gli stessi autisti si confondevano, dice siamo troppe linee. Comunque con i mezzi pubblici è vero, nel senso che tra tram e autobus, per esempio, metropolitana, io quando ero piccolo c'era già la linea 72, prendevo la 72 e la 73, quindi c'era la 90, credo, addirittura, se non sbaglio, già negli anni 70. Ma io non credo che i numeri degli autobus siano corrispettivi al numero di linee, perché pure da me quando ero ragazzino c'era l'85. Però a Milano era però così. Faccio fatica a pensare che c'erano. Allora, ma perché voi a Roma continuavate la numerazione di Milano? Noi partivamo dall'ultimo di Milano e andavate avanti. C'era pure il 90 sbarrato. Sì, comunque vi saluto solo. E ci sentiamo prossimamente. Ciao Roberto, grazie per stai partendo. Grazie per in aeroporto. Sono appena uscito dall'aeroporto al freddo e sperando che la donna venga a recuperarmi, cosa non scontata. Non così sicuro. No, si sente dalla voce che è un po' freddo. Stai congelando. Vabbè, grazie per l'intervento, Roberto. Fa sempre piacere. Comunque, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, buon rientro, ciao. Soprattutto. Ciao. E niente, vabbè, stavamo dicendo, insomma, cioè, il problema è che comunque, ammettendo, insomma, che sia un problema del centro-sud, è che comunque il discorso delle linee, che a volte erano proprio un terno all'otto. Cioè, noi comunque per avere delle linee che più o meno rispettassero degli orari, diciamo così, cioè noi per esempio c'era il 3 che partiva sotto casa mia e io sapevo che il 3 passava ogni 10 minuti, perché il 3 ce n'erano veramente tanti. Poi magari c'era il 9 che faceva più o meno la stessa linea, tranne alcune diversificazioni, che ne passava uno ogni mezz'ora, perché c'erano di meno. Però poi non è che passavano ogni mezz'ora, significa che 9 e mezza passa, cioè poteva, cioè, se lo perdevi l'autobus bestemmiavi, perché sai che non lo sapevi quando passava quello dopo. No, per fortuna, dico per fortuna, perché sennò avrei passato almeno le superiori a bestemmiare. Da noi gli orari erano abbastanza precisi. Sì, io non ho un ricordo particolare di orari. Io comunque ricordo che ero sempre in provincia, per cui per me i pullman erano sempre con la frequenza abbastanza limitata, no? Certi orari erano magari uno all'ora ne partiva. Sì, però l'orario era quello. Però l'orario era quello, sì. Quando sì. C'era scritto arrivava. Bestemmiavi se tu arrivavi tipo un minuto dopo e dici cacchio, mi tocca aspettare un'ora. Però in realtà c'era sempre almeno due o tre alternative per comunque prendere un pullman e arrivare più o meno in un posto dove ne potevi prendere un altro. E c'è difficile che stavi lì fermo a aspettare un'ora, ecco. Piuttosto quando devi andare a Milano prendevi, adesso non mi ricordo più le sigle, che passavano davanti a casa mia, ce n'erano tre: uno andava in centrale, uno andava in un'altra stazione, uno in un'altra, vabbè, fino in fondo a Viale Fulvio Testi prendevo, fino a Viale Zara, Piazza d'Agosto ne prendevo uno, e poi quando arrivavo là prendevo un tram a questo punto. Non so, io mi ricordo che noi in provincia, oltre ad avere le linee di autobus, quelle dell'ATM, quindi quelle municipali milanesi, c'erano anche le linee private. C'era Latinom, per esempio, da noi, che era una linea alternativa privata, sempre di autobus, che però era alternativa all'ATM, quindi potevi anche, se perdevi uno, cioè avevi, facendo un altro giro, potevi prendere quell'altro. Quindi erano, insomma, eravamo abbastanza forniti già negli anni 70. Le linee private c'erano anche qua, però non erano così capillari, cioè nel senso c'erano perché c'erano. Però poi, vabbè, questo poi, soprattutto nel capitolo successivo, però a volte autobus che sostituivano o che comunque si aggiungevano, diciamo, all'autobus e ti portava verso la provincia, c'erano anche quei privati, insomma, e costavano di solito mediamente leggermente un po' di più di quanto costava il biglietto normale dell'autobus. Sì. Però, vabbè, io ricordo l'ultimo ricordo vero. L'importante che ciò è che qui sempre rientriamo un po' nel modo in cui si gestivano le cose e il fatto che non si teneva proprio conto di tante problematiche in un'epoca, insomma, dove probabilmente c'era proprio meno attenzione, e che io avevo il deposito dell'ATAC proprio sotto casa, ma proprio sotto casa, cioè io abitavo al terzo piano e sotto da me c'era questo deposito, gigantesco deposito dell'ATAC, dove gli autobus di mezza Roma praticamente venivano e si mettevano incolonnati a file dei tre col motore acceso in attesa di fare il pieno ed entrare dentro. Quindi sta cosa durava magari da mezzanotte fino alle due di notte, con tutto sto rumore, e quindi la bellezza, sì, era proprio la cosa, però poi alla fine ti abitui a tutto, come si dice. Sì, io abitavo davanti a Viale Zara, per cui bene, le corriere sono, secondo me, penso, insomma, non soltanto secondo me, un po' come oggi il modo di viaggiare tra regioni era, insomma, il più comune per tante ragioni, secondo me, anche se poi c'erano delle corriere che veramente, altro che il film quello di Alberto Sordi, che andavano in Australia a cercare la moglie che si portavano le galline, più o meno era l'italianità, insomma, noi la ricordiamo anche in questo, soprattutto nel centro sud, insomma, dove sicuramente questi viaggi dentro le corriere erano molto pittoreschi, ovviamente ci trovavi il contadino che portava i caciotti, insomma, e non era una cosa poi così strana, tutto sommato, e, ed erano dei mezzi sicuramente più economici dei treni, e non esistevano delle linee pubbliche interregionali, quindi era il modo sicuro di viaggiare, il fatto di andare a una delle tante autolinee dei corriere, insomma, andavi, che ne so, alla stazione Termini, alla stazione di Burtina, dove ovviamente partivano, oppure a Piazza della Repubblica a Roma, dove partivano queste corriere, andavi lì, facevi il biglietto e partivi. Poi chiaramente il biglietto lo facevi lì, cioè non è che esisteva che tu prenotavi online il biglietto, insomma. Da loro erano in Piazza Castello, erano. Sì, Piazza Castello era proprio la partenza tipica delle corriere che ti portavano in gita. Io me le ricordo per le gite scolastiche. Sì, 99,9% erano le gite scolastiche. La corriera, sì, è vero, come dici tu, aveva questi viaggi diligenziali del West. Sì. Credo che siano. È più un ricordo che posso riportare da parte dei miei nonni. Loro a Parma, in questo paesino, Collecchio, questo paesino di campagna, per loro la corriera era l'unico mezzo che poteva permettere di portarli a Parma, città, piuttosto che anche venire a trovare a Milano. Noi partivano con la corriera. E c'era questa corriera che arrivava in stazione centrale partendo dalla stazione di Parma, era sempre una cosa legata un po' anche alle stazioni generalmente, e c'è più da parte loro. Io personalmente non ho quasi mai vissuto, se non in una sola occasione, la corriera in questi termini, ecco, forse perché eravamo in una fascia d'età quando ci potevamo muovere in autonomia, e quindi che avevo 18, 19 anni, 20 anni, era già passato il periodo un po' delle corriere, se vogliamo. Tu invece, tu eravate più giovani, voi addirittura. No, io la corriera l'ho presa solo per le gite, non ho mai presa. Anche se lì parlate di corriera, forse magari è improprio, perché spesso erano pullman organizzati per la gita. Sì, no? Era proprio, esatto. No, la corriera che è diverso dalla corriera, cioè nel senso. La corriera è quella che vedi nei film anni 60, dove vedi le persone che salgono con i polli, piuttosto che con i polli, con le valigie. Con i valigioni, come no? Ma scherzi, cioè, le cose, e poi persone... la corriera, e poi sopra ci si chiacchierava, si parlava, si faceva, e c'era una vita di sopra la corriera. Assolutamente. Sì. Secondo me, anche questo, tutte cose che comunque sono state frutto di tantissimi racconti, romanzi brevi e cose del genere, perché chiaramente all'interno di queste circostanze tu comunque già il viaggio in sé, comunque che non era comodo, già il disagio crea accomunanza, no? Che crea vicinanza, cioè questa cosa che si crea un'autosolidarietà, cioè tipo, ragazzi, ho fatto questo viaggio in corriera insieme, un po' come se andati nel Vietnam, tutto sommato, perché cioè, a volte c'erano dei viaggi scomodi, rumorosi, freddi, sbarabam, bam, bam, bam, che non si fermavano quando dovevano fare le pause, devo fare la pipì. Se qualcuno aveva dei problemi, ci si faceva in quattro tutti per risolverlo. Questo qua sta poco bene, diamogli una mano. Che ne so, c'era solidarietà. L'autista, dobbiamo andare al bagno, e quello ne fregava un cazzo, perché vedeva l'ora di tornare a casa. Pure lui che bestemmiava perché gli davano sto cartoccio di autobus che funzionava a malapena. E vabbè, poi... ci sarà stato pure quello che ha portato il caprone pure, eh? No, il caprone non lo so, però veramente ci ho visto di tutto, ci ho visto tante cose nei miei viaggi di ritorno, ovviamente dalle Marche. Tante volte da ragazzino prendevo sta corriera alle 6:30, io mi ricordo, ribadisco, per arrivare a San Savino oggi con la macchina ci metto 2:20, 2:30 proprio, e mi ricordo che io prendevo da Cagli, quindi sempre lì da vicino al paese mio, prendevo sta corriera alle 6:30 di mattina e arrivavo a Roma alle 11:00. Cioè, una cosa inverosimile. È vero che faceva tutto un giro, che prendeva la gente, faceva le fermate, quello che ti pare, ma cioè non ti passava mai. Ed è stato poi il famoso, una delle corriere è stata quella della famosa storia del Pantacollant verde, che io ho raccontato insomma diverse volte in diverse situazioni. Però c'era una vita dentro, c'era un'umanità incredibile. E poi, ecco, come ho detto prima, che poi giustamente l'ha ribadito anche Davide, alla fine era proprio il viaggio diligenziale del West, cioè nel senso era come la diligenza del West, dove tu caricavi e speravi di riuscire ad arrivare a destinazione, perché in certi casi vi assicuro che non era poi così scontato. Già negli anni 90 era diverso, ma negli anni 70 era particolare sta cosa insomma, vabbè, comunque vai Davide. Per concludere posso solo aggiungere che mi viene in mente adesso proprio parlando che ho avuto un'avventura dirigenziale più o meno, è un viaggio in vacanza, eravamo in Grecia a Karpathos, in un posto abbastanza sperduto, e per arrivare nel paese c'era solo un pullman che però aveva più la sembianza della corriera, anche perché era proprio una vettura degli anni 60, secondo me, la vettura. Con questo autista che appena svegliato, sembrava che stesse quasi dormendo, ci portava a tutta velocità su dei tornanti, perché per andare in città bisognava fare tutta una serie di tornanti, che tutte le volte dicevamo chissà se riusciamo a tornare vivi, perché questo qua proprio prendeva le curve. È vero, assolutamente, sì, sì. E ci arrivavamo e poi ce n'era uno solo di pullman, partiva la mattina alle X e arrivava a Carpathia, partiva il pomeriggio alle 5, tornava a casa alle 7, se te lo perdevi rimanevi là. Fantastico. È stata una bella esperienza. E ricordando le corriere che possiamo essere le corriere del futuro e ancora oggi esistente, secondo me, l'autostradale. Flixbus, ma ce ne sono diverse, le compagnie low budget, praticamente sono i Ryanair del trasporto su gomma fondamentalmente. Però negli anni 80 io l'ho utilizzato diverse volte per andare a Ivrea all'Olivetti, quando lavoravo all'Olivetti, da Milano, da piazza dal Monumentale praticamente, di piazza Castello, si prendeva l'autostradale che mi portava direttamente a Ivrea, praticamente quasi di fronte all'Olivetti. C'era proprio una fermata apposita per i lavoratori dell'Olivetti che lavoravano a Milano, all'Olivetti di Milano, e dovevano andare all'Olivetti di Ivrea e viceversa, e non pagavamo neanche il biglietto, se mostravamo il badge dell'Olivetti e raccomandati e andavamo. Che schifo. E c'era sta autostradale che faceva tutte le fermate delle autostrade, dei caselli, delle uscite delle autostrade, insomma sostituiva neanche il treno, non credo ci fosse un treno che potesse sostituire le autostradali, seguiva l'autostrada e si chiamava autostradale per l'appunto, era un po' la corriera ma era più per lavoratori, ecco. Bene, io passerei, se non abbiamo niente in contrario, al capitolo successivo, che è un po' quello, come posso dire, anche più particolare, no? Perché forse magari abbiamo tutti un po' più di esperienza da questo punto di vista, sia per quanto riguarda magari gli anni 70 e 80 confrontati con quelle che sono le esperienze attuali, che è il treno, perché il treno secondo me ha sempre avuto il suo fascino in qualche maniera, sì. Lo puoi legare a tantissime cose, forse per la sua conformazione, perché una volta i treni non erano come sono oggi, no? Che sono molto più simili all'aeroplano, no? Da un certo punto di vista, ma erano a scompartimenti, vi ricordate, no? Che erano a scompartimenti, certo. Da sei posti fondamentalmente, tre da una parte, tre dall'altra, ed era fatto quasi apposta per interagire comunque con le persone, era difficile finire un viaggio che non avevi comunque conosciuto qualcuno, che poi magari non avresti mai più rivisto nella tua vita, oppure magari avrebbe potuto diventare anche un amico o un amante o chissà che cosa. Però ecco, diciamo che il treno, perché aveva il posto dove si mangiava, perché si poteva camminare, perché anche quello era un viaggio stancante che creava comunque accomunanza, allora in qualche maniera il treno secondo me c'ha sempre avuto il suo fascino, fascino che oggi, a parte rare situazioni, secondo me un po' ha perso, chiaramente, inevitabilmente, per ragioni anche proprio più pratiche, perché come abbiamo detto prima con Carlo, ovviamente tu oggi sul tempo minore che passi all'interno del treno lo dedichi a non perdere il tempo che avresti impiegato per fare altro. che se ci pensiamo è una cosa positiva, dall'altra è una cosa anche un po' triste, perché comunque alla fine non ti godi più proprio il rapporto con gli altri. È vero che comunque anche gli altri stessi sono molto cambiati, oggi si interagisce poco sul treno e quando lo si fa è perché qualcuno non gli sta bene qualcosa, di solito, insomma, è abbassarsi il telefonino e parli piano e ma non dica le parolacce, ma gli puzzano i piedi, insomma, anche così, no, questo magari no, però insomma... Cosa pensate di questa? Sì, no, è vero. Io avventure in treno non ne ho avute moltissime, se non andando in giro, sempre pensando al treno in autonomia. Se no, viaggi in treno prima del fatto che potessi prendere in autonomia, quindi con i genitori, eccetera, ne abbiamo fatti pochissimi, perché comunque c'era sempre la macchina, no? Tranne quella volta che magari mio padre era via per lavoro all'estero e non c'era nessuno che ci poteva portare dai nonni, andavamo, che ne so, a Parma in treno, ma è stato tipo, mi ricordo, giusto una volta o due, non di più. E poi il treno che noi abbiamo cominciato a prendere in autonomia era più vicino agli anni 90 quasi, negli anni 80 abbiamo preso qualche treno per andare a fare qualche gita fuori porta, ma non il viaggio, quello, hai capito, come lo intendi tu, lungo, col quale riesci a interagire, anche perché viaggiavamo in gruppo, interagivamo per i fatti nostri, la cabina l'avevamo occupata tutti noi, gli amici, facevamo anche un gran casino sul treno. Invece quel viaggio così, l'unico viaggio simile al racconto, insomma all'idea, all'Hogward Express, a queste cabine dove ci si ritrova, l'ho fatta con mia moglie quando abbiamo fatto il viaggio di nozze, che non abbiamo fatto viaggio di nozze, scusa, abbiamo fatto viaggio per i fatti nostri, siamo andati a Parigi e abbiamo preso tutti i treni, un sacco di treni, il TGV, abbiamo preso vari treni per arrivare fino a Parigi e quella è stata un'avventura dove in qualche modo abbiamo interagito, abbiamo avuto modo di vivere il treno in questo modo, ecco, magari. Beh, io e Michele abbiamo un sogno nel cassetto, tra i vari sogni che abbiamo e che penso che insomma presto lo esaudiremo, quello di fare la Transiberiana, per esempio, che deve essere un'esperienza. Poi chiaramente devi aggiungere anche un fattore linguistico e culturale, perché la Transiberiana, pur facendo gran parte del suo percorso nella Russia, in realtà attraversa tre mondi completamente diversi, perché ovviamente già la parte di Russia sono tre mondi diversi, più la Mongolia, poi verso la Cina, cioè deve essere veramente un viaggio, un'esperienza. E la Siberia, ad arrivare a Siberia poi. Deve essere un'esperienza straordinaria che io e lei sogniamo da tanto tempo, solo che ci vuole un momento in cui te la pianifichi bene la cosa, perché chiaramente sai che il tempo che ci vuole te lo devi prendere, insomma. Che durata ha un viaggio del genere? Beh, dipende, perché poi non è detto che lo devi portare, però insomma considera che parte da Russia, arriva in Cina, quindi insomma. Beh sì, però parte da Parigi, no? La Transiberiana, volendo. No, quello è l'Oriente Express, quello che parte. Ah no, confondo l'Oriente Express. Ma anche l'Oriente Express sarebbe una bellissima esperienza, però è un'esperienza un po' più da fighetto, cioè un po' più da nobile, da signorotto. Ma ci vorrà un mese, quanto ci vuole? Vabbè, no, una settimana. Una settimana? Sì, però considera che... Cioè io ho visto dei filmati relativi alla Transiberiana, che dove alla fine veramente entrano quelle galline, oppure te portano da mangiare, non sai cosa, mangia da zuppa, tutta la magni, perché alla fine tanto sti cazzi, voglio dire, nel senso. Comunque, vabbè, questo vai. Devo dire che ho avuto un'esperienza invece opposta a quella di Davide, cioè per me invece negli anni 70, per me tutti i viaggi sono stati la gran parte in treno, un po' perché appunto soffrivo di mal d'auto e quindi comunque quando si poteva con mia mamma si prendeva il treno. Mio papà andava in macchina e lui ci raggiungeva quando poteva, lavorava, per esempio noi andavamo al mare, andavamo in treno, oppure andavamo dai parenti dei miei, i Teroni, al sud, e andavamo in treno. I Teroni, perché? I Teroni. E quindi... Io mi dissocio naturalmente. Sì. era se... a chi mi hai terrore di metà Parma. Della mia famiglia metà della mia famiglia è terrona e metà è milanese, quindi no, andavamo in treno e il treno era bellissimo perché per me da piccolo, mentre con la macchina, per me il viaggio in macchina era la noia mortale, il viaggio in treno invece era il divertimento, perché in treno potevo fare tutto, potevo disegnare, potevo leggere, giocavamo a carte, si giocava di tutto, mi ricordo anche le partite a scacchi, a dama, qualunque cosa. Poi la cosa divertente è che appunto essendo i treni divisi in queste cabine da sei, tu soprattutto quando facevi il viaggio più lungo della media, quindi magari andavi in Lazio, da Milano andavi a Roma piuttosto che in Campania, che andavamo a Napoli dai parenti a Pestum giù nella bassa, diciamo, Italia, in Terronia. Si conoscevano poi tutte le persone dello scompartimento. Alla fine del viaggio partivi che non ti conoscevi, arrivavi che erano tutti amici praticamente. Mi ricordo un sacco di gente conosciuta lì, ma tanta gente che poi, non, come dici tu, non avrei mai più rivisto in vita mia, però tu praticamente durante il viaggio ci si raccontava di tutto, no? Poi c'era la signora che si portava il cagnolino nella gabbietta, poi c'era quella che gli piaceva giocare a carte, poi c'era il signore che iniziava a raccontare la storia della sua vita, insomma c'erano sempre delle storie diverse, e me ricordo tutte, io ho dei ricordi ormai vaghi perché sto parlando veramente ormai di 40 anni fa. Però mi è rimasto anche, il senso, non a caso, della bellezza del viaggio, del treno. Non a caso anche sul treno racconti, romanzi e film di ogni genere, perché chiaramente il treno è proprio fonte di ispirazione, perché tutta l'umanità che passa, l'umanità che incontri e che incontravi, che comunque in qualche maniera ti arricchiva il viaggio. Io comunque poi anche i viaggi di notte con la cabina a letto, esatto, infatti quello, io arrivavo anche a quest'altro punto, che poi io continuo a dire che i viaggi, parlando proprio di viaggio, non di esperienza complessiva, ma di viaggio, quindi di spostamento, i viaggi più belli che ho fatto in treno, proprio con la cabina, con il vagone letto, no? E ho fatto anche l'Interrail, non so se voi l'avete mai fatto l'Interrail. Ma io l'Interrail non l'ho mai fatto. Molti dei miei amici l'hanno fatto. Io l'ho fatto ed è stata un'estate bellissima, super divertente, passata per la maggior parte in treno, perché una delle cose che facevi con l'Interrail era usare il treno per dormire e spostandoti da una città all'altra, al posto di pagare l'albergo, perché ovviamente eri squattrinato ragazzo, quindi cosa facevi? Per vedere più posti possibile, tu vedevi un posto, poi prendevi il treno di notte, dormendo nel treno, perché tanto ormai il biglietto ce l'avevi pagato con l'Interrail, avevi tutti i viaggi che volevi, e quindi sfruttavi il treno per dormire e arrivavi da un'altra parte e vedevi un altro posto e così via, insomma. Ho girato mezza Europa con... Interessante, bella cosa. Beh, io ci sono stato in Ungheria, ci sono stato in Cecoslovacchia, ci sono stato a Parigi, ci sono stato a Vienna. Io tutti i viaggi più belli che ho fatto l'ho fatti col treno, perché partivi da Roma e arrivavi il giorno dopo praticamente, e lo facevi col vagone letto, e anche il vagone letto se non eri in quattro, quindi tu con altri tre amici e non prenotavi tutto il vagone letto, capace di trovavi anche una persona nella cabinetta con te in uno dei quattro letti, perché ricordiamo i vagoni letto, cioè si trasformavano praticamente le sedute si trasformavano in letto, più c'erano anche due letti sopra e due letti sotto, no? Quindi insomma devo dire che è stato bello, e io lì ho conosciuto tantissima gente, e a volte anche con i controllori, cioè nel senso con gli stessi operatori all'interno del treno, no? Che parlavi, raccontavi, perché insomma pure per loro a volte doveva essere tipo una mezza palla, insomma, tutto sommato, e quando c'avevano l'opportunità di conoscere magari persone che ti facevano che erano simpatiche o quale stavi bene e via dicendo, sicuramente insomma in qualche maniera alla fine anche loro amavano fare questa cosa, e devo dire che quei tipi di viaggi lì erano particolari, perché in realtà sì, dormivi, ma era comunque stancante uguale, che non è che riposavi bene, diciamo così, cioè nel senso, no quello è vero, non riposavi quasi per niente, non riposavi quasi per niente se dormivi. Poi io mi ricordo anche viaggi in treno con le gite scolastiche dove succede un po' di tutto, poi fondamentalmente scolastiche, allora, quelle sono un capitolo a parte, non abbiamo raccontato d'albergo, non so. Esatto. Però sapete che ci siamo dimenticati, ma anche se non è proprio importante, però di un mezzo di trasporto che invece mi ricorda molto quello che succede nel treno, che anzi ho vissuto più volte in questo mezzo che piuttosto che nel treno, cioè quello di giocare a carte, di trovarsi eccetera, che sono i traghetti quando vai in Sardegna, un posto dove stai delle ore, tante ore, sì, e si dorme anche. Sì, è abbastanza simile il traghetto, però ricordo, è più raro da prendere ovviamente. Esatto, sì, però diciamo che mi ricorda molto anche lì il giocare a carte, passeggiare, è un viaggio anche quello in realtà. Sì, lì il problema è che c'è il mal di mare, però vabbè diciamo che allora io i traghetti e le navi non l'ho messi appositamente perché sennò poi si allungava un po' anche lì, poi era solo per ricordare. No però è giusto però, cioè, io ad esempio sul treno, noi viaggi di notte, c'era sta cosa di fare attenzione al ladro, ogni tanto c'era qualcuno che si fregava qualcosa, quindi bisognava andare dal capotreno e fare la denuncia, e se quello succede. È capitato? È capitato, sì. Ma la cosa che ricordo molto era la dogana, ragazzi. La dogana oggi è una cosa inconcepibile, però la dogana, tu arrivavi tra Italia e Austria e il treno si fermava e salivano i poliziotti e controllavano i documenti con i cani antidroga, è vero. Non mi ricordavo sta roba, è vero. Sì, c'erano le dogane, mica c'era l'Europa Unita. Ma che quando sono andato a Parigi, che ci siamo fatti tutti i giri, Svizzera, poi c'erano, è vero. I più stronzi sono sempre quelli della lingua tedesca, quindi i svizzeri, gli austriaci, che alla fine erano quelli un po' più pedanti, che rompevano i coglioni. Che però ti fa le domande in tedesco e vogliono che tu gli rispondi. Io ho preso il treno quando ho fatto l'Interrail da Parigi a Londra e non c'era il tunnel sotto la Manica. Quindi cosa succedeva? Tu prendevi il treno, arrivava al confine della Manica, staccavano i vagoni con te dentro, caricavano i vagoni sul traghetto e lì facevano la dogana e poi attraversavano la Manica col traghetto, poi ristaccavano i vagoni, li rimettevano sui binari e lì andavi a Londra. Sì, era così. C'è Roberto che probabilmente ci sta seguendo durante il suo viaggio di ritorno, che lui dice Interrail, lui ha fatto Germania, Olanda, Danimarca, Svezia e Finlandia, e lui va solo dove ci sono Zozzone. Lui va solo dove ci sono in Danimarca, ci sono arrivato anch'io fino alla Danimarca, Zozzone pure tu. Ma non hai cuccato lo stesso. No, noi non cuccavamo mai, io non cuccavo mai. Lui per principio, lui si rifiutava, se arrivava una bella gnocca quanti K di memoria hai, esatto, lui la schifava per principio ideologico. Io andrei all'ultimo capitolo di questa puntata, che comunque è stata carina, tutto sommato mi è sempre un piacere un po' ricordare, anche se magari non è che abbiamo raccontato cose particolarmente eclatanti, su quello che è secondo me il mezzo di trasporto meno usato negli anni 70-80, anche se poi oggi piano piano è diventato forse una consuetudine, a volte lo si usa anche a sproposito secondo me, e perché comunque al di là dell'abbassamento del costo del biglietto e dell'aumento anche del tenore della qualità della vita della gente, poi sono subentrate anche le compagnie low cost che hanno poi avvantaggiato moltissimo questo tipo di discorso spesso costa meno l'aereo del treno, spesso quasi sempre praticamente, se tu ci pensi oggi il costo del treno effettivo alla fine, cioè sì, io con 20 euro capace che ci vado in Sardegna, mentre che insomma col treno questa cosa non sarebbe fattibile, mentre che una volta invece ovviamente non c'era la consuetudine, perché soprattutto nei voli a corto raggio, anzi nei voli a corto raggio, a meno che non eri un ricco industriale o comunque un politico, qualcuno che si doveva raggiungere i posti in determinate situazioni, in determinati tempismi, in determinati tempi, sicuramente non c'era proprio la consuetudine. Maggiore era la consuetudine nei viaggi più a lungo raggio, quindi magari i viaggi continentali o intercontinentali, anche se comunque ribadiamo che il costo di un volo aereo negli anni 70 e 80 era importante, era uno stipendio. Sicuramente uno stipendio. Questo è una cosa che non so quanti aerei avete preso voi. Io la mia unica esperienza, per esempio nell'87, quando sono andato in Nuova Zelanda, è stata, cioè l'altro lì è pure un'altra corriera poi, fondamentalmente, perché io sono andato in Nuova Zelanda nell'87 con la British Airways, quindi sono dovuto prendere il volo da Roma a Londra, e da Londra partito per Sydney, e poi da Sydney lo scalo per la Nuova Zelanda. E che sono 24 ore di viaggio. Allora, di norma sarebbero 24 ore di viaggio. Io con la British Airways ci ho messo 36 ore per arrivare in Australia, perché era un autobus, pur essendo un jumbo gigante. Un giorno e mezzo. Eh sì, perché praticamente loro facevano tutte le fermate, cioè Singapore, Bombay, vabbè, varie altre. Si arrivano con le galline anche su. Sì, che poi ricordiamoci, quando l'aereo fa una fermata su 3 ore, non è che si ferma e parte. Diciamo che ci stavano alcune fermate dove potevi scendere, alcune fermate dove non ti era consentito scendere, e salivano questi con gli aspirapolveri, pulivano un po' così. Vabbè, non vi dico in India, cioè in India è stata un'esperienza un po' particolare. E poi quando sono arrivato in Australia, e in Australia non avevo il visto per l'Australia, perché io dovevo prendere immediatamente il volo successivo per la Nuova Zelanda, che avevamo perso per motivi di ritardo dell'aereo, e quindi io sono stato scortato dalla polizia in albergo, e sono stato ripreso dalla polizia e sono stato imbarcato il giorno dopo. Cioè in Australia non c'era la possibilità in nessun modo se non essere scortati e piantonati dalla polizia. Quindi questa è una cosa, loro vabbè c'avevano un controllo anche per ragioni logistiche, che comunque le risorse di un continente come l'Australia sono veramente molto relative, e infatti in un paese grosso come l'Europa alla fine sono 15-20 milioni di abitanti, se vai a vedere, insomma. Comunque, al di là di questo, ecco, i viaggi erano lunghi, erano impegnativi, erano costosi, erano sicuramente anche comodi se andavi in una classe intermedia, perché ricordiamo che una volta c'era questa cosa delle tre classi, no? La terza classe, la seconda classe era la classe intermedia, poi c'era la prima classe per i signoroni, e in terza classe di solito ci viaggiavano proprio i zappettoni, le pecore, sì, esatto, i galline e via dicendo. E mi ricordo questa cosa, insomma, di questi viaggi lunghissimi, che se tu viaggi contro la rotazione terrestre, vedi il sole che sorge e tramonta più volte nell'arco del viaggio, no? E ti portano a mangiare ogni 3 ore e mezza, perché è un modo per far passare il tempo. Poi non c'erano i monitor che ci stanno adesso, cioè a un certo punto tiravano giù un telone e proiettavano un film, cioè nel senso così. Hai ricordato una cosa interessante: sui voli aerei si mangiava e c'era questa, e quando arrivavano queste tizie con la roba, tu dicevi che cosa c'è, vediamo, io ero contento, perché a parte che ti aiutava a spezzare la noia, e poi a me sinceramente la roba nell'aereo mi è sempre piaciuta, cioè nel senso strano ma vero. Anche a me, ammetto che mi attira molto quelle porcate lì. Io ho preso l'aereo la prima volta molto presto, perché tu l'hai preso nell'87, io l'ho preso nell'85 la prima volta, avevo 15 anni, non presto come ha raccontato Roberto, che l'hanno spedito in Inghilterra da solo, che aveva 3 anni, non mi ricordo, 7 anni, cosa aveva detto, non mi ricordo. Non lo so, ma se ci ascolta adesso ce lo ricorderà sicuramente. C'era andato giovanissimo. Io invece avevo già 15 anni, già, per modo di dire, perché comunque 15 anni sei ancora abbastanza pischello, un bambino. Come bambino, sì. Mi ricordo, mi hanno spedito a studiare in Inghilterra d'estate e mi hanno caricato su questo aereo da solo, nel senso con compagni che ho conosciuto lì di della mia età, che andavamo tutti a studiare in Inghilterra, ma senza i genitori. E ci ho ripensato e devo dire la verità, io non mi ricordo una particolare emozione della prima volta in aereo. Mi ricordo che La cosa che mi ricordo di più di quel primo viaggio d'aereo è la differenza di temperatura tra l'andata e l'arrivo e al ritorno, nel senso che partivo da un posto dove faceva caldo caldo perché era luglio in estate, arrivavo in un posto che faceva freddo, cioè a luglio in Inghilterra. Ah, sì, sì, questo è vero. E ripartivo da luglio inglese che faceva freddo e arrivavo in Italia che faceva caldo, e questo me lo ricordo perché proprio c'ho questa esperienza proprio della differenza di temperatura potente, insomma, ecco, tra i due posti. Però devo dire che non me lo ricordo molto. Il primo sei viaggio. Anni comunque, Roberto sì. È andato a 6 anni. Ecco, vedi, 6 anni. Sì. Poi l'ho preso tantissime volte l'aereo, un po' perché sono tornato a studiare sempre in Inghilterra e poi dopo fino all'università. No, no, ma l'aereo poi l'ho preso tante volte anch'io. Devo dire la prima. E poi per lavoro, vabbè, tante volte. Tra cui una volta ho preso anche un quadrimotore ad elica. No, quello mi manca. Quello sì. Grazie a Dio. Quello l'ho preso 2 volte. Allora, io devo dire la verità, sì, ma questa cosa, considerando che il mio primo viaggio che ho fatto nell'87, considerate che io sono partito a febbraio in Italia che faceva freddo, sono arrivato a febbraio in Nuova Zelanda e faceva caldo, perché chiaramente lì le stagioni sono invertite, no? Chiaramente, quindi cioè, noi siamo partiti d'inverno e siamo arrivati d'estate, perché loro comunque a febbraio era piena estate. Se, concettualmente sì, però poi alla fine quando tu sali sull'aereo sali come sei vestito in Italia, no? Fondamentalmente. Quindi quando sei arrivato, comunque, anche se tu sapevi che era così, ti fa effetto, perché tu comunque un giorno prima stavi a morire come brocche di freddo, capito? Cioè, quindi fa sempre strano, no? L'effetto questa cosa, ma a volte questa cosa anche nei voli più brevi, cioè nel senso, io una volta non mi ricordo da dove sono partito, eravamo in Nord Europa e quando siamo tornati in Italia faceva caldo, invece lì si stava benissimo, cioè nel senso, basta anche poco, no, come tipo di spostamenti. E poi il mio primo volo comunque su un aereo gigantesco, dove comunque alla fine comunque il volo di per sé lo senti poco, no? I voli intercontinentali vanno a una quota altissima, quindi in realtà non lo senti proprio a un certo punto che sai, tranne quando al viaggio di ritorno c'è stato un vuoto d'aria che mi sono veramente cagato sotto, cioè proprio penso che se avessi dovuto andare al bagno in quel momento mi sarebbe uscita, perché non avrei proprio più il controllo sulla muscolatura, cioè sarà durato 4 secondi sta cosa, ma sono stati 4 secondi più mostruosi di tutta quanta la mia vita, e da lì quella cosa secondo me un po' mi ha segnato. E poi secondo me, più che il decollo, a me quello che mi terrorizza è l'atterraggio, cioè l'atterraggio è un momento delicatissimo, tant'è che mia moglie mi parla, io sto lì concentrato zitto, è come se sono io che sto a atterrare. No, io con l'aereo ormai ho un rapporto dove io dormo sull'aereo, parto dopo 5 minuti. No, ma pure io, cioè non è che mo c'ho, cioè nel senso, io se posso evitare di prendere l'aereo, non prendi Ryanair perché lì non dormi, perché ti spiccicano talmente dentro. Io ho fatto sto patto con mia moglie, piuttosto pago di più il volo, ma io su Ryanair per ragioni proprio di principio non ci piaccio più. Per me non è motivato, cioè è immotivato prendere quell'aereo, anche se te fanno pagare 25 euro. Per me non è giustificabile essere trattati e viaggiare in quelle condizioni là. Non, mi dispiace, però cioè non sono un fricchettone, uno che gli piace sta comodo, io sono uno che si adatta anche. Però essere trattati de merda anche su un aereo, te devo dire, preferisco pagare 300 euro invece che 25, ma almeno. Comunque la persona, almeno so gentile. Almeno allunghi le gambe, dai. Anche, sì, sì. Hai le ginocchia nel mento. Sì, sì, no, ma cosa, senza considerare le cinture per i ciccioni, nel senso. Giusto. Con l'estensione, la prolunghetta. Te la fanno proprio pesare, insomma. Vabbè, comunque al di là di questo. No, io comunque l'unica cosa che posso ricordare, e l'ho già ricordato in un altro episodio, non mi ricordo, forse è lo stesso Roberto ha raccontato che tra 6 anni è stato spedito, è il viaggio che ho fatto con mio padre, il mio primo volo aereo, che sarà stati gli anni 80, giù di lì, a vedere la fiera dell'automobile di Francoforte, dove mio padre aziendalmente viaggiavano parecchio in aereo, erano riuscito ad avere, penso con le miglia o con qualcosa del genere, un paio di biglietti col quale siamo andati io e lui a Francoforte, e mi ricordo sicuramente la propria primissima volta in assoluto che sono salito e ho visto un aereo, sicuramente tante emozioni nel decollo eccetera. Mentre al ritorno, essendo che all'aeroporto mio padre aveva comprato un giochino che all'epoca era fantascienza, era Autorace della Mattel, un giochino a LED con tre LED. Ah, sì, ve lo ricordo, bellissimo. Un giochino che semplicissimo, però all'epoca era fantascienza. E per il viaggio di ritorno ho giocato tutto il tempo questo giochino e non mi sono neanche dell'aereo, non mi frega più un cazzo. Cioè, Autorace, basta. Autorace era stato un fantascienza davvero, che è un giochino che se oggi guardate di che è sta roba. Io comunque puntualizzerei, sì, cioè, fisserei anche gli ultimi due punti miei, poi insomma dite magari le vostre esperienze, che uno è chiaramente non si può non far notare, ma questo l'abbiamo detto in tante altre circostanze, negli anni 70-80 si fumava sull'aereo, che se tu ci pensi oggi è una cosa completamente inconcepibile, perché eri in uno spazio chiuso, tra l'altro pressurizzato, con il condizionamento d'aria interno, quindi cioè nel senso era una cosa, e si fumava. Fumavano tutti, e se fumava fumavano l'aria non fumatore, l'aria fumatore separata da due tendine. Sì, ma l'aria non fumatore sul treno era ridicolo, cioè nel senso era solo ridicolo a dirlo, cioè facevi prima non mettercela, perché era una cosa proprio inaccettabile sta cosa, veramente, che se fumava sugli aerei, se si fumava dappertutto sull'aereo sta cosa era, perché veramente non potevi uscire, non potevi aprire il finestrino e piavi una boccata d'aria, insomma, quindi era una cosa. Io comunque ho preso l'aereo di quello per andare a Francoforte, mio padre fumava, eravamo nell'area fumatori e sono andato in Grecia due o tre volte con mia moglie in tempi degli anni 90, quasi diciamo il 95, 93-95, sono riuscito a prendere degli aerei dove ancora si fumava in Grecia, della Olympic Airways. E un altro punto, il mio punto finale è quello che, se dicevamo, come abbiamo detto nella puntata con Davide Gatti, noi vedevamo il mondo diverso tra regione e regione, perché c'erano modi di parlare, abitudini, consuetudini, insomma, anche, come posso dire, tradizioni diverse, tutto sembrava tutto così esotico, no? Quando conoscevi il ragazzo di Roma, conosceva il ragazzo di Milano o la ragazza di Milano, e la cosa era ancora più amplificata quando tu prendevi un aereo o facevi un viaggio verso l'estero, dove conoscevi veramente delle persone che erano completamente diverse da te. E ogni volta quando tu partivi per un posto, le informazioni che avevi erano sempre più o meno relative, e quindi tutto si faceva un po', diventava tutto un po' leggendario, no? Ma tu lo sai che lì le persone fanno sta cosa, capito? Come Totò che veniva a Milano con gli abbaglianti a tappese al collo perché c'era la nebbia, no? Col coltello, arrivava col coltello in stazione, fa: perché il coltello? Perché dicono che la nebbia si taglia col coltello, allora c'era il coltello per tagliare la nebbia. Esatto, e gli abbaglianti appesi, dai, quello finito è stato. Beh, d'altronde, insomma, era Totò, non era l'ultimo degli scemi, insomma. E vabbè, comunque, ecco, sta cosa, insomma, che il mondo veramente, cioè tu ti approcciavi con l'estero ed eri molto più disabituato, che conosce comunque il ragazzo di Milano, il ragazzo di Napoli, e quindi era figo sta cosa, cioè proprio era un modo proprio per crescere, perché mai quanto allora era diverso, cioè nel senso era veramente diverso. Oggi i ragazzi sono più abituati, hanno pure una visione internazionale, no? Conoscono tante cose, vedono anche tante cose che arrivano dall'estero, interagiscono molto di più. Invece per noi era una cosa strana, cioè era figo il fatto che andavi all'estero, ti sentivi fighissimo. Esatto. No? Per dirti che i miei figli siamo andati, che ne so, negli Stati Uniti o in Giappone, non è che sono rimasti, siamo in un altro mondo, tutto come se fossimo andati a un centro commerciale qua di fianco. Tanto adesso vai al centro commerciale, c'è McDonald's, vai a New York, c'è McDonald's, vai a Tokyo, c'è McDonald's, quindi alla fine. Nel senso che comunque, a parte il fatto che culturalmente il Giappone è molto distante, in realtà se vai in un paese straniero qualsiasi, siamo andati in Germania, siamo andati in vari posti, in realtà la vedevo che la vivevano come se fosse un posto normale, dove raramente avevamo interazioni dove c'era la lingua che era il problema, ma ce la cavavamo sempre autonomamente. Quindi non la vedevano sta grande scuola, non hanno mai colto il fascino di essere in un altro paese come lo abbiamo vissuto noi in quegli anni, dove tu non ti rendi conto quanto è figo che tu vivi nel tuo paese, ma tu che ne sai. E poi c'era questa cosa che tu tornavi dall'estero, ecco, finisco con questa, che tu tornavi dall'estero e raccontavi di questo posto che era meglio de da noi, cioè, ma mica, certo, mica come da noi, No, aspetta, calma. Quando io tornavo dall'Inghilterra non raccontavo che era meglio. Quando tornavo dall'Inghilterra dicevo, ragazzi, Inghilterra si mangia di merda. Vabbè, perché la gente era un nodo dolente quello. Porca miseria. Nodo dolente. L'unica cosa commestibile erano i fish and chips. Poi buono, fish and chips, buono. La volta è buono, ma sì, io guardo, io, più di ora. No, a me piace, Io devo dire la verità che in realtà anche quando ero ragazzino sono stato a Londra nell'86 e ti devo dire la verità, io mi mangiavo tutto perché faceva schifo la roba, ma era quello schifo che mi piaceva, cioè a me comunque lo schifo mi piace, quindi cioè, che... I spaghetti con la marmellata. Ah no, ma non andavo a prendere la roba italiana, cioè non c'aveva senso, no? No, cioè, io... ma non ce l'avevano neanche nell'86 la roba italiana. Non ma esiste, magari c'era anche, perché c'era già Pizza Hut, c'erano tante cose, insomma. Sì, Pizza Hut, non chiamarla pizza perché non c'era niente. Vabbè, però per loro era pizza quella. Erano gli di pizza dei toast, Pizza Hut nell'86, alla fine ricordo, poi rimaneva dritta Pizza Hut. Sì, sì, era lo speedy pizza, quello che metti nel toast praticamente, la stessa roba. Non ho mai sentito speedy pizza, comunque vabbè. Non hai mai sentito lo speedy pizza? No, è perché ce l'avevate solo voi a Milano. Probabile. Da Findus. Sì, era, non mi ricordo la marca, ma sa che dovrebbe essere arrivata. Se la cerchi quando faremo la ma lo conosco. Lo conosco, lo conosco, solo che non l'ho mai, cioè non è mai stata la cosa che ho avuto la. Ma voi a Roma ce l'avete la Findus? Sì, ce l'abbiamo la Findus, allora. Abbiamo il Capitan Findus direttamente. Una cosa che mi ricordo dei viaggi in Inghilterra è quando ho visto gli spaghetti congelati pronti per essere cotti, che ho detto, questa cosa qui in Italia non arriverà mai. Ti arresta. Dopo pochi anni, 4 salti in padella, ok. No, aspetta, stai a parlare di due cose diverse. Non estremizzare il concetto. Il prodotto precotto che vendevano in America e in Inghilterra e vendono ancora sono completamente diversi dai 4 salti in padella. 4 salti in padella è comunque un piatto, una ricetta italiana che viene precotto e surgelato. Tu te lo riscaldi. Però non c'era negli anni 80. No, non c'era, vabbè, ma quello che vuol dire, cioè, nel senso, le cose arrivano prima o poi. Che se glielo dicevi a mia mamma o mia nonna negli anni 80, ti sputava in un occhio. Ma grazie al cazzo, cioè, voglio dire. Sono d'accordo, però c'è una cosa, la roba surgelata precotta che vendono per l'inglese è una cosa di 4 salti in padella che so buoni, sì, è quella che noi diamo al cane, esatto, cioè. Ma io ho mangiato anche quella roba lì, perché io comunque curiosità totale, cioè io ogni volta quando vedevo sti barattoli con dentro rigatoni, spaghetti all'Alfredo, io porco due, esatto, io li dovevo assolutamente assaggiare, perché cioè roba. E poi nello schifo alcuni non erano manco, cioè facevano schifo, ma erano schifo lodevole, cioè buoni, questi fanno veramente schifo, bravi, mi piacciono. Io so solo che quando tornavo, i primi anni che tornavo dall'Inghilterra, prima di partire, quando chiamavo i miei, gli dicevo preparatemi 5 etti di pan di spaghetti. certo, quello, anche se io devo dire, in qualsiasi parte del mondo dove sono andato ho sempre mangiato tranquillamente, andando a cercare. Prego. Dico, beato veramente te, perché veramente ho visto che mangi tutto con senza nessun problema. No, ma io devo dire la verità, andavo in Ungheria, andavo nelle trattorie ungheresi, non andavo a cercare la cucina internazionale, non mi interessava, no? Cioè, nel senso, se devo sperimentare, devo sperimentare. Poi chiaro, non tutto. Cioè, per esempio, in Lituania, mi ricordo che in Lituania siamo andati con questo amico mio, siamo andati a fare sta gita a un lago che non mi ricordo manco come si chiamava. E a un certo punto, nella guida che ci avevamo, prendete questa cosa qui, che non mi ricordo come si chiama, perché è una tipica zuppa che fanno lì, insomma, nelle parti del lago. E noi lo prendiamo, e praticamente questi te portano. Cioè, praticamente le bocce quelle dove c'è sta il pesce rosso dentro, con dentro una specie di brodara con rosmarino. Ma guarda, ti devo dire la verità, non mi sarebbe stupito, cioè nel senso questa brodara a malapena torbida con del rosmarino dentro. E cioè, io dico no, c'è da essere un errore. Oh, cioè, poi me la sono mangiata un pochetto perché dico vabbè, se no questi si offendono, no? Cioè, ma la son mangiata, poi ho detto no, vabbè, basta, è troppa, scusi signore, è troppa. sono pieno. E vabbè, la malattia. Vabbè, ma secondo me non avevamo capito noi che cosa bisognava fare, perché magari ci avevano portato del pane, delle cose che secondo me bisognava intignare dentro il pane. Io, chi lo sa come cazzo dovevi cucinartelo tu. Sì, esatto, scusa, non riuscivi a comunicare con Zagazicinsa? No, sì, in Lituania, nella provincia, già a Vilnius parlavano inglese, ma nell'entroterra della Lituania non mi è mai capitato, insomma, cioè non c'era possibilità di interagire. Comunque, a gesti andavate. Comunque, la cosa che volevamo fare in questa puntata, che io ho trovato carina sicuramente, poi sai, non tutte le puntate possono essere il top, diciamo così, anche perché poi questa è stata una puntata di emergenza, il fatto che anche Roberto, insomma, e la sua puntata che era pronta poi non ha potuto partecipare, però io ritengo che il capire anche il modo in cui ci si spostava e quanto peculiare fosse il modo di spostarsi all'epoca era una cosa, è un racconto da fare, perché fa parte anche questo del tessuto degli anni 70 e 80, che sono ovviamente il nostro focus. Io ritengo che ognuno di noi in qualche maniera, magari anche pensandoci, magari anche riascoltando la puntata in podcast che uscirà insomma da domani, magari gli verranno in mente altri ricordi e altre cose, cose magari particolari. Quindi se vi capita, scriveteci nei commenti e scriveteci i vostri racconti, le vostre esperienze, in modo che noi ovviamente le raccoglieremo per la prossima puntata e prima di iniziare magari il tema della prossima puntata le leggeremo, come abbiamo fatto già in altre occasioni, perché ci piace condividere anche un po' questa cosa delle esperienze. Detto questo, Davide, vuoi concludere? Hai qualcosa da aggiungere che magari ti sei dimenticato? No, direi di no. Diciamo, in questo momento mi stava venendo in mente sempre sulle cose che vedevamo nei paesi quando andavamo nei nostri viaggi, e che vedevamo tante cose, non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato dei mezzi di trasporto ovviamente, giustamente, però il fascino di vedere tante cose completamente diverse da quelle che vedevamo nei nostri paesi, quello è comunque parte del viaggio, insomma, vedere anche solo le costruzioni, i modi, i posti dove vai, i negozi, le cose, tutto era fascinoso e faceva parte del viaggio comunque. Poi dopo, sai, il viaggio è sì il mezzo di trasporto, ma è anche poi vivere quel momento in cui sei in quel posto dove sei stato trasportato, ecco. Basta, tutto qua. Indubbiamente, Carlo? Concordo. Sì, concordo con quello che ha detto Davide. Io una cosa posso dire, che ho viaggiato parecchio da ragazzo, per fortuna, insomma, un po' perché c'era la possibilità di farlo. E quello che dico spesso è che quando vedo molta gente che si lamenta dell'Italia, di come viviamo, eccetera, dico vacci all'estero, poi ci stai un po', poi torni indietro e vedi che apprezzi di più dove stai vivendo e dove vivi, perché una cosa che impari quando giri, quando vai all'estero, quando vedi tanti posti, è anche che l'Italia non è così male come la si dipinge. No, ma in realtà poi sai, noi la dipingiamo. Sai qual è il problema? Che tante volte si va una settimana, 5 giorni in un posto, poi in maniera in particolare questa generazione dove ci sono i viaggi last minute, dove parti il sabato e ritorni la domenica, no? Cioè nel senso, occasionissima, weekend a Parigi. Cioè, vai per andarci, ma cioè che cogli? Niente, no? Chiaramente. Quindi noi tante volte il viaggio più lungo che facciamo in un posto magari può essere una settimana, in quella settimana tu tendi a vedere tutte quelle cose che ti meravigliano, no? In generale, comunque le cose che tu ritieni migliori. E secondo me è solo vivendo determinate situazioni, perché io per esempio a Nuova Zelanda ci sono stato 3 mesi, cioè per dirti, e c'erano tante cose che allora nell'87 mi meravigliavano, c'erano tante cose che erano, cioè che invidiavo, cioè non invidiavo assolutamente rispetto al paese dove vivevo io. E allora dico sempre che in realtà ogni posto, ogni mondo è paese tutto sommato, e ci sono i pro e i contro in ogni situazione, in ogni cultura, in ogni società, e questo lo dico proprio in senso generale. e a volte, soprattutto questo periodo del Covid, mi ha fatto anche capire quanto poi, tutto sommato, noi siamo stati anche fortunati ad avere comunque un'organizzazione sanitaria che, per quanto criticabile, criticata e via dicendo, ad esempio comunque ci ha assistito. In altri posti non, certo. Non è stata la stessa cosa, chiaramente, no? Perché, perché la struttura sanitaria è semi privatizzata o se non addirittura del tutto privatizzata. Quindi io non mi sono mai lamentato di questa cosa, ogni volta quando sentivo mica è come da noi, ma io esatto, come diceva un amico mio che ha vissuto per tantissimo tempo in Olanda e dove ha preso la multa perché si era dimenticato di cambiare la lampadina della bicicletta e il vigile gli ha detto, e il poliziotto gli ha detto, rules are rules, no? Cioè, nel senso, le regole sono regole, indipendentemente dal fatto che io capisco che tu non l'hai fatta apposta. Cioè, dopo vedi come bestemmi e torni da mamma, capito? Cercate di tornare nel paese dove tu comunque hai fatto sempre un po' come cazzo te pare, no? Quindi, tutto sommato, io so i pregi e i difetti in ogni società, e devo dire che io quando ritornavo ho sempre avuto un buon ricordo dei posti dove andavo, ma ero sempre contento di tornare a casa. Questo anch'io. Questo esatto, senza riassunto, è il riassunto di tutto il discorso, davvero. Esatto, perché, vero. E invece questa puntata ha raccontato il fatto del viaggio, che il viaggio è esso stesso un viaggio, e soprattutto in un periodo in cui ci si prendeva il tempo. Ed è vero che oggi è assolutamente difficile, ma io, se vi posso dare un suggerimento, ma questo lo dico a tutti quanti quelli che ci ascoltano, magari fate una cosa di meno, ma prendetevi più tempo per farla, perché il tempo che impiegherete per farla probabilmente vi arricchirà in qualche maniera, in un modo diverso da quello che vi aspettate. E a volte staccate un po' l'occhio dal cellulare e godetevi magari anche il paesaggio che passa dal finestrino o la persona che sta davanti a voi, che insomma vedete che probabilmente recupererete un pizzico di quel mondo che è sicuramente svanito, ma che poi tutto sommato, insomma, alla fine può anche ritornare, chi lo sa, insomma. Basta un flare solare e a voglia a prendere le diligenze per spostarsi a Milano, insomma. Vero, va bene, dai ragazzi, detto questo, dai, io vi ringrazio, è stata carina la puntata, ringrazio ovviamente caro Sant'Agostino, ricordiamo insomma tutti i suoi grandi impegni, ma soprattutto ricordiamo Archeologia Informatica sia come podcast che come, quindi spero che insomma prima o poi faranno delle puntate. Sì, anzi tra poco stiamo preparando un paio di nuove puntate di Archeologia Informatica. Bello. Anche con il Davide Gatti, vero Davide? Ci abbiamo in programma un mega specialone che speriamo di riuscire a fare presto, a breve. Quindi podcast e canale YouTube, andate, seguite, insomma andate su cercare, cioè voi siete capaci a cercare su internet, no? Cioè quando dovete andare su Pornhub siete bravissimi, quindi cioè, esatto. Quindi, Archeologia Informatica, quindi lo cercate archeologiainformatica.it, ma se no andate su YouTube e cercate Archeologia Informatica. E ringrazio e saluto ovviamente Davide Gatti con il suo Survival Hacking, e anche questo parte dal podcast e finisce su YouTube. Yes, e comunque ritorna anche il podcast, adesso facciamo passare le vacanze un attimo, fatemi respirare, ma poi torna ancora il podcast, e quindi mi trovate un po' tutte le salse, e poi mi infiltro sempre un po' a destra manca, dove capita, io ho sempre uno zampetto di quella, non essendo poi neanche un fuscello, ma comunque stranamente noi che non siamo molto fuscelli ci riusciamo a infilare sempre. Noi si infiliamo sempre, sì assolutamente. Sì, okay. E quindi niente, volevo anche ricordare che ci stiamo avvicinando alle feste di Natale, quindi un augurio, cominciamo no vabbè la prossima settimana gli auguri. No la prossima settimana è troppo presto. Dobbiamo far sentire più buoni i nostri ascoltatori che devono andare su www.radio.it. Ah, giusto, è vero, hai ragione. E farci sentire anche a noi un po' il Natale esatto. Feste che stanno avvicinando. Fateci un regalo anche a noi. Esatto, cominciate a organizzare questa cosa. Sapete che Amazon ci mette il tempo, ci sono i corrieri che sono un po' in subbuglio, ci vuole il tempo, e quindi considerate che possiate già iniziare adesso. Ecco. Cioè diciamo quello che vuole dire Davide è che fate come nonna, che nonna non vi faceva il regalo che non sapeva che regalarvi, poi arrivava là e vi dava mezza piotta, no? Cioè, nel senso direttamente e comprati quello che vuoi. Poi invece non è che dovete darci la mezza piotta, però se andate su runtimeradio.it e cliccate su runtime anch'io, su il pulsante anch'io, potete fare una donazione, una tantum su PayPal se volete, oppure una ricorrente su Patreon, e contribuirete ovviamente anche voi a quello che è il lavoro complessivo che facciamo, che ha ovviamente, come sapete, insomma dei costi effettivi, pratici ogni mese, e che noi comunque ci sobbacchiamo, ma che grazie comunque al contributo di tanti di voi è diventato sicuramente molto molto meno gravoso, insomma. E di questo vi ringraziamo, e se volete, dato che se è Natale siete tutti più buoni, fatelo ancora. Esatto. Io vi ringrazio e vi saluto a tutti quanti, vi lascio con una canzone sempre legata al treno, e vi auguro la buonanotte a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte.